siamo morbidissimi. Non è assolutamente vero, noi arriviamo in radio e non sappiamo che musica c'è, però noi la musica ce l'abbiamo, perché Zona Rossa è anche questo. Quindi a tutti voi, attentissimi, prontissimi, tutta per voi la sigla. Ricordatevi Telegram. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hooah! Hooah! Dai Norberto, basta. Attenzione, attenzione, arrivano dei messaggi freschissimi. Freschissimi. Ricordiamo la bellissima chat Radio Zam trattino basso chat su Telegram. Ma quanto è spassosa questa sigla! Fioccano, fioccano, fioccano i messaggi, ne arrivano anche per Norberto! Poi, giuro, prima o poi lo faccio, farò un video con questa traccia, un video bellissimo, e alla fine col font di Cowboy Bebop comparirà Zona Rossa. Torniamo a smarmellarci. No, scherzo, scherzo, niente. Questo è l'auto DJ che va in sottofondo. Alzo il volume di Norberto che è qua accanto a me, anche se non sembra. Ciao a tutti, popolo di Radio Zam, siamo freschissimi, direi. Madonna, che brivido questa voce al microfono, poi impariamo a usarlo. Benissimo, intanto che Norberto svolge le sue funzioni geopolitiche, tentando come ogni giorno di salvare il sistema dal capitalismo, dallo sfruttamento, dalla schiavitù e dal sessismo, lui intanto va avanti a scrivere, a prendersi i suoi appunti, a guardarsi le sue mail. Hasta la victoria. Ecco, attenzione, si è distratto un secondo, ma solo per un secondo, perché non molla un colpo, non molla un attimo. Ha detto che tra poco farà anche lui ovviamente la diretta, perché me l'ha promesso. Insomma, dovete capire che qua il collettivo Spallanzani abbiamo anche una zona per gli esami universitari, sudata con la fronte, veramente col sudore della fronte, non con la fronte, forse col gomito ogni tanto, anche se appuntito, e insomma una turbina che stava per esplodere e poi non ha funzionato a 6 ore dall'esame, quindi abbiamo dovuto acchittare il primo portatile disponibile e ovviamente quell'oculo lì è stato chiuso, sigillato e buttato una bomba dentro per essere rifatto la prossima volta, ma c'è una novità. Non so se ve ne sarete accorti, soprattutto io mi riferisco a coloro che lavorano di notte e si spostano con i loro tir per trasportare cose. Io lo so che voi ascoltate Radio ZM e lo so che voi in questi giorni siete rimasti sorpresissimi del fatto che non siamo mai andati offline. Ora io dico, dato che ho preso il monopolio di Zona Rossa, visto che il nostro compagno Guglielmo ha detto addio, ha detto no, io basta, non lo faccio più, non c'ho più voglia, cos'è quel programma di merda lì, ti lascio da solo. Bene, io sovradeterminerò con tutti gli argomenti più noiosi che a me esaltano di più l'andare completamente on air, cioè vi rendete conto? 24/7, 24 ore su 24, 7 su 7, come il capitalismo, però noi non lo siamo, quindi ha senso tutto questo discorso, ha senso. Io volevo regalarvi anche una perla, in realtà, proprio per entrare a gamba tesa in questa puntata. Adesso la carico nel deck, sappiate che questa registrazione che state per ascoltare è una registrazione che ha 12 anni, e mettetevi in testa questa cosa, provate ad ascoltarla ovviamente molto concentrati, la concentrazione che ha Zona Rossa, rimarrete molto sorpresi. A voi Franco Bifo Berardi, Waiting for the Tsunami. Prima che arrivi quella grande, prima che arrivi l'onda definitiva, prima che arrivi la botta stravolgente, prima che arrivi lo tsunami, sai come funziona? Che il mare si ritira per un tempo che può essere breve o lunghissimo, l'onda si ritira, lascia la sabbia, lascia la palude, lascia un sentimento di depressione gigantesca, lascia la sensazione di non esserci, lascia la sensazione che tutto sia finito e che non possa riprendere mai più. Bene, io ho l'impressione che in questo passaggio noi siamo nella risacca e ho la sensazione che la risacca prepara un ritorno talmente travolgente, talmente spaventoso, che noi non abbiamo neppure al momento il coraggio di pensarlo, il coraggio di immaginarlo. Lo senti in giro? In treno, in autobus, per strada, lo senti con assoluta nettezza, questo senso di un ritrarsi di ogni energia, di un essere finito di ogni energia, questo senso di depressione, il cinismo, l'unico elemento che resta della nostra cultura è il cinismo, ma un cinismo fatto di frammenti di disperazione, fatto di attimi di déjà vu di un mondo inesplicabile, indicibile, innominabile. Ecco, questo, la risacca, il cinismo, la disperazione, la depressione, il senso di non disporre più di un coordinamento tra la volontà e l'azione, la percezione di una incapacità delle membra di muoversi, di compiere azioni che siano desiderio, che siano piacere, che siano comunicazione, che siano semplicemente libertà, gioia di esserci. Tutto questo è scomparso, finito, la risacca. Il cinismo non ha nulla a che fare con l'ironia. Il cinismo è autodisprezzo, è percezione del proprio corpo e della propria mente come materia che si è disfatta, come materia che non conosce più il coordinamento, che non è più organismo. Il corpo senza organi si è trasformato in corpo in decomposizione e gli organi si appallottolano l'uno sull'altro insieme, schifosamente si percepiscono come intollerabili per sé medesimi. È la risacca. Attendi lo tsunami, attendi ma preparati, perché occorre immaginare qualcosa, un vestito da portare, un gesto da compiere, una parola da dire, un attimo prima che l'onda definitivamente ti spazzi via. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar ray sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made of gold. E voi vi starete chiedendo, ma cosa sta succedendo lì? Voi non vi preoccupate, non vi preoccupate. Sentite che bella sta traccia che abbiamo ritrovato nello scaffale. Tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar ray sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previous. Io questi pazzi li ho conosciuti, nel 2006-2007. Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to fightless. People overseas suffer just like we. Bad leadership, mass destruction. Feed on the people they supposed to lead. I don't need the people to pray and wait. Qui l'ho conosciuti con un film molto bello, super hollywoodiano, quindi una tamarrata che si chiamava The Beach. Mi aveva fissato un sacco quando ero ragazzino. C'era un DiCaprio giovanissimo e dei Fightless in colonna sonora pazzeschi. Suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're solar ray sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. E tornati, tornatissimi, Zona Rossa 1919, non abbiamo ancora chiamato lui, solo lui, l'unico lui, però aspettiamo. Invece io volevo entrare a gamba tesa verso un'altra persona che gentilmente ci delizia, e ora vogliamo vedere se è veramente attenta, attentissima, perché questi 5 numeri che vedo qua, uno è lui, ma lo so che è lui. E magari se alzo anche il microfono della telefonata forse è meglio. Pronto? Eccolo! Eccoci! Lei sa benissimo dove si trova, signore, vero? Mi stavo giusto ascoltando in onda e quei secondi di ritardo, chiamiamo lui. Ah, già, è vero che ci sono sempre i maledetti 10 secondi di ritardo. Quindi abbiamo Stefano con noi al telefono su Zona Rossa. Ciao a tutti, ciao a tutte. Colui, l'unico colui che chiamerei il copy di Zona Rossa. Quindi questo termine anglofono per definirti colui che ci manda le cheat, colui che ci manda tutte queste bellissime come possiamo chiamarli, le rubriche che nessuno stava aspettando, giusto? Oh, esatto, aspettavamo solo questo. Ma dici un po', vogliamo un po' capire come gli chef e le loro migliori ricette, dove vai a pescare, a comprare le tue cose, le tue informazioni, da dove trai tutta questa linfa di ironia spicciola? Allora, principalmente da problemi mentali, dai miei problemi mentali che mi assillano. Ma per la rubrica che nessuno stava aspettando, pesco dalle attività che si svolgono, oppure che prima di questa pandemia si svolgevano dentro ZAM e che si continueranno a svolgere pure dopo. Quindi in sostanza la rubrica che nessuno stava aspettando consiste in battute brutte. Sottolineiamo brutte, che parlano ognuna, diciamo, di un'attività di ZAM. Potrebbero non finire più. Lo sai questo, vero? Sì, però diciamo l'infa. Però secondo me il termine brutto non è proprio idoneo, perché non è che sono brutte, è che sono, sai, che ti lasciano quel vuoto quando l'ascolti, dici ok. Sì, ti colpiscono sulla praticamente. Però poi io so anche dell'esistenza di una pagina Instagram che mi sembra che si stringa l'occhiolino a tutto questo discorso. Sì, allora la pagina Instagram si chiama... Puoi ripeterlo, che mi sa che è uscito malissimo l'audio dal telefono. Ok, la pagina Instagram si chiama Time. Punch Time, perfetto. È gestita da un esimio collega, tra l'altro speaker radiofonico di questa fantastica radio, Sero, che appunto è una pagina che si occupa di battute orribili, principalmente, anzi esclusivamente. Quindi voi andate a cercarla nelle storie, ogni giorno potete essere accompagnati da queste battute orribili che vi allietano la giornata, a noi allietano il programma, perché nei momenti in cui dobbiamo prendere fiato ce ne fanno perdere ancora di più. Esatto. E quindi niente, facciamo il nostro manino, che è un maestro di freddure, e io non ricordo più se settimana scorsa avete già mandato prima di questa tematica di ZAM. Sì, penso c'è, okay. Questa che c'è nella chat subito prima di quella che hai mandato poc'anzi. Esatto, che io praticamente sono state con la chat di ZAM della radio solo per dirvi da più terribile. Sono state spulciate molto molto minuziosamente. Poi secondo me faremo anche dei contenuti a parte che manderemo come pillole ogni tot, e di questo ovviamente fanno parte tutte queste, certo, bellissime parole messe insieme. Stefano, niente, noi ti lasciamo con questo bellissimo saluto e poi andiamo avanti, questa la introduciamo dopo, poi magari non la leggiamo adesso, però ti chiediamo due cose, ti chiediamo tre. La prima, Cesa, mi senti? Ti sento. La prima cosa che ti voglio chiedere è: ma è vero che tu negli ambienti della malavita organizzata sei conosciuto come il dottore? Sì. Ah, ok. È vero. Okay. Due nomi in codice di solito. Uno è il dottore. Ok. Invece l'altro, che è diciamo più da combattente, è Tranquillino. Orco Dio. Madonna. Vero? Sì. No, niente, questa era la mia domanda, adesso mi taccio. Ma poi nel caso sappiamo tutti e tutte che Stefano ha diversi programmi perché è uno speaker. Queste personalità vengono fuori nei determinati programmi o invece sono un mix di tutte messe insieme? No, sono un mix di tutte messe insieme. E invece la prossima domanda, così prendiamo tempo per l'altra. Ma una canzone che vuoi mandare, qualsiasi essa sia, poi me la dici al volo così. A cuore, proprio, allora, sentimento. Ok, ce l'ho di cuore proprio. È una canzone di un rapper che secondo me fa bruttissimo, che è Jack the Smoker. Ok. E la canzone si chiama 5 momenti top. Trovata. E intanto ci devi far sapere, proprio così, da quello che fa i nomi, chi vuoi che chiamiamo. Ah, quindi devo infamare qualcuno. Tocca a te, Stefano. Ma tra l'altro, sbaglio, è la prima volta che ti chiamiamo a Zona Rossa? Sì, è la prima volta. Che vergogna, cioè, ma che cazzo abbiamo fatto allora, in tre mesi? Allora, Cesa, io vorrei sottolineare questa cosa. L'altra volta, che era la prima volta che io ero in Zona Rossa, abbiamo chiamato per la prima volta Nils. Aia. Adesso che è un'altra prima volta, perché per me è sempre la prima volta qui a Zona Rossa, abbiamo chiamato te. Adesso io non voglio dire che Pica e Gulli siano due persone malvagie che ti odiano, anzi peggio, che ti hanno utilizzato in modo strumentalizzato in modo proprio materiale brutto per le tue ricerche, soprattutto in fatto di battute. Però ecco, certo che ci starebbe la scenetta comica proprio da fumetto, tipo il Cesa che manda agli amici le cose, gli amici che chiamano tutti gli altri meno che il Cesa, lui lì che sorride, che aspetta la telefonata di Zona Rossa che non arriva mai, invece è arrivata, e indovina un po' chi c'era a far compagnia a Gigi? Lorenzo, quindi Gulli no, scherzo. Ok, visto che invece non c'è un cazzo da ridere, esatto, tra l'altro ho pronta una vendetta che mi dispiace, Orso, che te la devi accollare pure tu. Ma sì, lo sai che io me la collo. Bravo. Visto che la volta scorsa è stata la prima volta per il pusillanime Mista e questa volta per il pusillanime Cesa. Giusto. Il prossimo pusillanime da chiamare sarà Giulio Polemica. No, Giulio è stato già chiamato diverse volte. Giulio è strachiamato, poi adesso ormai è tipo come, non so, sai quell'appuntamento alla radio che tu lo chiami? E quindi no, è anche un po' snob, ti dirò. Ma infatti ho paura a telefonargli. Poi lo chiameremo comunque. Potresti avere un'altra possibilità, un Jolly, non so. Ok, allora un altro che mi è venuto in mente, non so bene perché, è Gabri di GTA. Ah, per esempio, Gabri di GTA. Ma Giulio, non te la prendere sul personale, però le ultime volte a pranzo non è che dicevi proprio che figata Zona Rossa, bellissimo. Mi dicevi proprio che ti chiamiamo durante la cena, quindi ti chiamiamo un po' più avanti, perché l'ora di cena non è adesso, è troppo presto. Giulio, perché lui è un grande comunicatore, no? È certo, però vogliamo disturbarlo, quindi lo chiamiamo a cena, non adesso, è presto. Ma tu, adesso. Cesa, stai parlando di Giulio il grafico? Giulio il grafico. Ah, ok, non avevo capito che parlavi di lui. Quindi, Jack the Smoker per Stefano, che ringraziamo, grazie mille per esserti fatto disturbare, quindi dopo andiamo su Gabri, Jack the Smoker, 5 momenti top, tutta vostra. Yeah. Se dovessi andare via e cambiare vita, porterei 5 ricordi nella mia valigia. 5 momenti che non scorderò, sono i miei 5 momenti top. 1. Nella mia squadra da bimbo giocavo centravanti, e ricordo il mio esordio, io stesso sulla tre quarti. L'arbitro fischia il fallo, il mio compagno mi fa party. Tiro di merda, ma la barriera era troppo avanti. L'arbitro annulla e io ritiro, parte il tiro, sotto il set interno a giro. Intorno a me tutti in delirio e non capivo nulla. Ho fatto un giro del campo completo, mentre esultavo con le braccia a culo alla Bebeto. 2. A 14 anni ero un mister nessuno, bruciavo tutti i miei risparmi nel business del fumo. Quel giorno stavo in down, ti giuro, un fra mi faccio 6. Per farmi ripigliare accende su radio DJ. 1-2-1-2 suonava i Fugees, killing me softly. Nella mia testa un Fuji alla Michael Scofield. Oh sì, oh sì, prima giravo a vuoto senza meta, ora ho tutto uno scopo su questo pianeta. E se dovessi andare via e cambiare vita, porterei 5 ricordi nella mia valigia. 5 momenti che non scorderò, sono i miei 5 momenti top. E se dovessi andare via per sempre, porterei 5 ricordi nella mente. 5 momenti che non scorderò, sono i miei 5 momenti top. 3. Hai visto quel servizio a Rai 3 sui writer? Dipingere all'aperto per me è un rischio, però fai te. Io facevo il palo con gli altri, a un certo punto sento parti dietro tre volanti, cuore prossimo agli infarti. Una segue me, l'altra gli altri 3. Non mi blocco e corro fino alla prima metro che c'è. Sembro Flash, scendo alla banchina dove becco gli altri salvio le fuck the popo man, pura adrenalina. 4. Presentazione del mio primo disco, qua si rischia. Pensa se la gente scappa, pensa se la gente fischia. Locale pieno, io mi faccio spazio nella mischia. Parto in frista, la gente mi assalta prima che finisca. Per la prima volta incoronato re, fra che svolta, niente più CD dentro le scatole. Dopo lo show, la mia prima intervista, e poi coi bro a contare al cesso una pila di cash mai vista. E se dovessi andare via e cambiare vita, porterei 5 ricordi nella mia valigia. 5 momenti che non scorderò, sono i miei cinque momenti top. E se dovessi andare via per sempre, porterei cinque ricordi nella mente. Cinque momenti che non scorderò, sono i miei cinque momenti top. 5. Con chi sei? Mi fa lei. Ero in scialla al bar coi miei. Hai da fare? Non direi. Oggi compio 26. Vieni, vengo, ok. Conosco tutti al tavolo in cui sei. Però resto poco perché c'ho un puntello per le 6. Piacere, sono Jack. E che fai? Faccio il rap. Scusa, ma non so niente del rap. Già ti amo, niente, beh, parlavo fra me e me. A volte capita. E lasciami il tuo cell che ti richiamo. Sei simpatica. Se dovessi andare via e cambiare vita, porterei cinque ricordi nella mia valigia. Cinque momenti che non scorderò, sono i miei cinque momenti top. E se dovessi andare via per sempre, porterei cinque ricordi nella mente. Cinque momenti che non scorderò, sono i miei cinque momenti top. Eccoci tornati a Zona Rossa 19:31. Intanto riceviamo messaggi che leggiamo ben volentieri perché fanno parte di colui e solo colui che ha fondato per primo le ceneri di questo programma, le ha messe insieme, è nato Zona Rossa in solitaria, era l'8 di marzo, Guglielmo, dove sei? Quindi, leggo testè parole. Sei il capo dei buffoni, Pica, e Norberto è il tuo servitore. Norberto, ce l'ha con te, mi sa. Insomma, diciamo che il peso delle parole dipende da chi le dice, no, Guglielmo? Ma ti vogliamo bene lo stesso. Intanto sotto curami dei CCCP, andiamo avanti. Il secondo messaggio di Guglielmo è bastardi i con tante i, perché qui siamo bimbi minchia nell'anima. Pessimi, vi costruisco un monumento piastrellato alla vostra liquidità intestina. Norberto, ma ce l'ha però sempre con te, secondo me, non so perché. Sì, no, ma sai cos'è? Non è che ce l'ha con me, è che ha imparato delle parole nuove oggi, evidentemente, quindi deve usarle. Bravo, mi hai fatto venire in mente una parola nuova che mi ha insegnato. Aspetta, mi sta chiamando Francesco Beltrame. Cazzo, perché non mi funziona il jack del telefono, porco Giuda? Vabbè, lasciamo stare. Salutiamo Fra Beltrame, il mercoledì è Zona Rossa. Fra, mi dispiace, al massimo devi chiamare Norberto perché è l'unico telefono disponibile qui in radio per ancora un po', finché non mi torna il secondo mio telefono che è disperso in via Coldilana. Norberto, dicevi? No, dicevo che Guglielmo è sempre più simpatico, sarei proprio curioso di sapere cosa sta facendo in questi giorni, sarei proprio curioso. E Zona Rossa è veramente un bel programma. Complimenti, Pica, per averci pensato. Per averci pensato, il contributo di Orso fondamentale, direi. E le chiamate. Ti ringrazio, Norbi, sei splendido. E le chiamate, beh, epiche, che dire. Adesso, tra l'altro, chi è che chiamiamo? Giusto, giusto. Questo si chiama passare la palla. Potresti dire per favore ai microfoni il tuo PIN del telefono? No, no, l'ho azzeccato, scherzo. L'ho azzeccato. E niente, chi chiamiamo? Chiamiamo una persona lontanissima, una persona che non vediamo e non sentiamo praticamente mai. Lo chiamiamo perché ci manca tantissimo. Pronto. Ehi, Fra. Pronto. Oi, Fra. Chi è? Sono Gigi. Oh, bella Gigi. Bella, sei in diretta su Radio ZM. Bella frate, cosa fate? Cosa state parlando? Siamo qui, chillati, c'è Norbi che mi sbuffa sulla mista. Ah, che pettaccio di cazzo. Scusate, sì, sì. No, no, puoi dire anche le parolacce, vetrà. Ah, ok. Sto a posto, mi sto qua a chillare qua. Dov'è che ti trovi? Dove ti trovi? Sono esattamente praticamente nei dintorni di Zam, praticamente. Nei dintorni di Zam, ne ho sentito parlare. Sì, infatti anch'io, io infatti ti sento parlare, ti dirò di più, io ti sento parlare. Tu... Questa è la verità. Ma dici un po', tu che sei un ragazzo del ghetto, ma che... beh dai, un po' lo sai, come gira oggi a Milano Sud? Diciamo che solleva tanto la solidarietà, però comunque stazione è stazione. Solleva tanto la marijuana, ma comunque è grigio. Grigio-verde, no? Diciamo. Bravo. Diciamo che la natura aiuta perché la gente vuole andare avanti, ma la gente vuole anche tirarti indietro, quindi qua è una continua pressione, una resilienza, possiamo dire, per le parole di oggi. Complimenti Gabri, veramente sei un poeta, fatelo dire. No Norbi, mi sa che da lì non ti sente. L'hai sentito? Sì, l'ho sentito, l'ho sentito. Ma com'è possibile? È incredibile. Le magie della tecnologia. Ma io l'ho sentito addirittura alla finestra, può essere. Dio. Questo è un po' difficile perché arriviamo 10 secondi dopo il telefonato. No, non è vero. Madonna. No, non è vero. È possibile di queste cose. No, no, non è vero, siamo in diretta, live and direct. Live and direct, esatto. Ma è ovvio, ovvio. E tra l'altro tu sei il nostro fortunato milionesimo ascoltatore e quindi hai vinto un premio, sì, hai vinto un premio, in particolare hai vinto una notte di passione con Fergi. Però in alternativa, perché siccome siamo vaghemente democratici, puoi scegliere, in realtà i premi sono due. Cioè, o uno striptease mega hardcore mio e di Norbi, oppure una notte d'amore con Fergi. Guarda, mi sa che mi è contento, visto che è platonico, comunque spero lo striptease. Dato che non c'è un contatto, se non hardcore, né visivo, posso anche bendarmi, chiudere gli occhi. Sì, perché è un'esperienza sensoriale che va comunque a toccare tutti i sensi, gusto, olfatto... Sì, ma penso sia più facilmente dimenticabile che una notte con Fergi, capisci? Quindi, non lo so. Questo non te lo posso garantire. Comunque saprai dircelo alla prossima puntata di Zona Rossa, tranquillo. Ah, va bene, io sarò qua a rispondere, ragazzi. Anche perché ti abbiamo già chiamato, non è la tua prima volta, vero? No, la mia prima volta è stata qualche mese or sono, ti do di più. Quando c'era anche quell'altro, com'è che si chiama? Guglielmo? Sì, Guglielmo. Esatto. Ma tra l'altro io ho visto il numero, pensavo fosse un bisognoso, sinceramente. Ho detto, cazzo, ma vedi che c'è stato il numero. Beh, che effettivamente abbiamo bisogno un po' tutti. Quindi mi stai dicendo, Gabri, che non hai registrato il mio numero? Assolutamente no. Assolutamente no, ha detto. Sei veramente incommentabile, io non ho parole. Insomma, ti vogliono bene tutti oggi, eh? Madonna. Gabri, non ti capiscono. Non sa Norberto che tu l'hai fatto per preservare da eventuali ritorsioni delle forze dell'ordine. Bravo, è un povero coglione, Norberto. Non vuole capire. Io non volevo dirlo, brava. Grazie. Scambia l'amore per odio. È proprio veramente disgustoso. Sì, esatto. Il rispetto anche solo nel preservare una cosa. Ma non lo so, guarda. Vabbè, comunque. Gabri, ma ce la lanci una traccia bella da mettere? Vince ogni volta, ma non finite così alla fine, che devo pensarci tu. Aspetta, metti. Vince, raga, pesante. La mettiamo dalla finestra così la sentite anche voi. Non c'è qualche hit del Teia nuova? Hit del Teia? Slow comunista, comunista slow. Ma la trovo sul tubo? Penso di sì, ce ne sono due versioni. Metti quella che ti pare. Yeah. Allora, niente, mi sa che tocca a Gabri a sto giro comunicarci con lui o con lei. Bella traccia, eh? No, facci la snicciata, dici chi chiamare. Chi chiamare? Sì. Chiama Gulli, cazzo, no? Potrebbe essere, anche perché lo saprà già in questo momento, visto che ci starà ascoltando sicuro, ma lo chiama. Aspetta. Okay. Anzi, facci due nomi, così se ci stanno ascoltando entrambe le persone rimangono lì in attesa, che dicono mi chiama e poi non lo chiamiamo. Uno dei due non verrà mai chiamato, mai. Ma proprio mai, fra, mai, mai. Aspetta, mai più. Uno Serena di GTA, allora. Una Serena di GTA. Ce l'avete? La no, Serena? Ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. Però così dobbiamo chiamare per forza Serena. Allora fammi un perché sennò è brutto che non chiamiamo Serena mai più. Allora, cioè. Così, però è bellissimo che non chiamiamo più Gulli. Gioia. Sì, tanto Gioia c'ha il programma, che ci frega, possiamo chiamare sia Gulli che Gioia. Dai, va bene, te la sei cavata così, Gabri, per stavolta. Dai. Niente, in questo momento è entrato Teia in radio, che ci vuole... Vuoi fare un pezzo? Vuole fare un pezzo, quindi ciao Teia, accomodati, diamogli il mic. Alla fine lo fa live. Lo fa live, è qua. Bella. E registra il mio numero, pezzo di me. Ci provo. Comunista slow, il Teia, yo. Tutto per il parchetto qua sotto che si sta sollazzando. Attenzione.

Addirittura parole forti da un uomo ambiguo. Parole . Fortissime, ma da dove chiama questo uomo ambiguo? Dov'è? Sono da Polto, frazione di Punzone Bellese. Frazione di Punzone Bellese, un posto meraviglioso. Attenzione, che figata! Benissimo, ma cosa stai facendo, Guglielmo? In questo momento sto cercando di fare la doccia, stavo ascoltando la radio tra i deficienti che parlavano. Giustamente hai deciso di interromperli subito. Ascolta, Pica, ma cos'è quella roba che mi hai mandato prima? Quella persona che parlava di onde? Cos'era, un meteorologo? Era un uomo di mare? Parlava di onde? Quella persona che parlava di onde, ma chi è? Ma non lo so, ma sei tu, perché tu stai cercando di farlo diventare un programma serio. Ah, ma certo, ma sì, ma era il mio amico Franco Berardi, è passato qua, ha voluto il microfono. D'altronde la radio è libera a tutti e tutte, Guglielmo. La libertà, che grosso problema. Ci stavamo chiedendo, appunto, volevamo disquisire con te. Forse ha più senso cercare delle domande socialmente utili da porre alle persone per avere, appunto, evitare un ricadimento nel nulla, o andare avanti a braccio senza porsi nessun tipo di limite e sconsideratezza. Tu, dall'alto dei tuoi palazzi lì nei monti piemontesi, cosa dici? Secondo me la domanda da fare è questa, due punti: dimmi qualcosa di sinistra. Ah, giusto, è vero, c'era l'ondata a zona rossa. Ma Guri, volevo chiederti una cosa, però. Dimmi, io ma cosa, perché si dice andare a braccio? A braccio dove, in che senso? Non lo so, si riferisce al sistema metrico inglese, per cui il braccio è una misura corta, come dire un metro, quindi come dire andiamo metro a metro, cioè navighiamo un po' sul vicino, ma non lo so, mi sento un po' Giulio in questo momento a darti questa risposta. Dici che è grave? Dici che mi devo preoccupare? Beh, due domandine. No, se ti senti Giulio mi dispiace più che altro, però non ti devi preoccupare. Speriamo non dispiacere. Quindi Guglielmo, a sto punto ti chiediamo, dici qualcosa di sinistra. Tutto il potere dei Soviet. Madonna. Grande Gulli! Grande! Bravo, bravo. Mentre pronunciavi quella frase, qua si è aperta la base missilistica sotterranea di Grottosoglio, no? Funziona, funziona, grandi, bravi. Il test ha funzionato. Adesso Gulli, io invece che di sinistra lo sono ben poco, come lo sai, come ben bravo, sai. Bravo, ti dico, per citare un nostro gran compagno, dici qualcosa di romantico. Leningrado. Ah, lo sapevo. Sei pronto, dai. Oggi un bel 10, te lo sei meritato. Ah, anche perché, tra l'altro, Guglielmo, hai sentito che il nostro Norberto qua ha dato un esame stamattina a proposito di voti. Vogliamo parlare Doveva dare domani, quindi studiava stanotte. Ero già pronto a pungolarlo tutta la notte con delle chiamate fastidiose per distrarlo. Guarda, anch'io, infatti, ieri in mezzo alla cena mi guarda e mi fa: oh, dopo sistemiamo il computer. Come sistemiamo il computer? Ma l'esame non era il 28, e invece no. Amici miei, potremmo sorvolare su questo argomento, a dire la verità. Hai rifiutato un 18 o ti stava dando 12? No, ho rifiutato un po' più di 18, però non troppo di più. 19 22, 23 Bravo. Dici, Guglielmo, dici, com'è la tua giornata lì? Cosa fai? Com'è il panorama che vedi? Assolutamente nulla, qui sono delle giornate meravigliose, un cielo azzurro fantastico, temperatura meravigliosa, io guardo solo un muro con delle piastrelle che salgono e scendono e basta. Infatti la mia vita sta diventando solo colla per piastrelle. Ti sei accorto di quanto dura la Radio ZM, di quanto siamo on air H24? No, sì, ci stavo giusto a pensare stamattina, cioè, cazzo, guarda che non salta più, è fantastica. 404 mai più. Bravo Lorenzo, chissà quanti capitalisti avrei pagato per ottenere questo breve risultato da poveraccio. Non ascoltatelo, ringraziamo la Club Unit sempre nel cuore, sempre. Loro sì. Vabbè, ma chiamate Gioia, che è una persona più simpatica di me, chiedetele qualcosa di sinistra, dai. Adesso chiamiamo anche lei, ma prima ci devi dire almeno una traccia. Dai, cazzo, beh, non i Bloody Beetroots. No, una bellissima, che è una delle mie preferite in assoluto, dei Metallica, che tra l'altro non si sentono mai in radio. Questo perché Riccardo continua a mettere in moda la City Ambler, bastardo rifondarolo, vorremmo prenderti, Riccardo. Non ho capito che avete ancora rifondazione. Capito, Riccardo? Sì, veramente, ma poi basta con questi Modena City Ambler. Grazie per tutto quello che avete fatto, ma basta. È colpa sua, Riccardo, lo metto in continuazione. Vedi la notte, metti in Modena. Fa schifo. Che infanzia schifo triste. Dobbiamo tornare a chiudere la radio. Esatto. Grazie Modena, siete bellissimi. Grazie Riccardo. Quindi Metallica Santander, dovreste avere la libreria perché c'è. Com'è la traccia? Santander. Tra l'altro Pezzone, video bellissimo, girato nel carcere di San Quintino. Esatto. Madonna. E sai cosa gli dicono mentre loro entrano nel video? Gli dicono: se vi fanno prigionieri non vi verremo a salvare. Poi chissà se è vero o meno. Però insomma, loro entrano in carcere di massima sicurezza. E gli dicono una roba del genere. Dici, vabbè. Sant'Angelo. Vedi che in fondo sei un po' libertario anche tu, Gulli. Ma non lo so, dipende. Hai qualche accento libertario. Ma tra l'altro, scusami un secondo, Lorenzo, ma tu l'hai sentito Andrea per stasera? No, no, ho preferito lasciargli un attimo, una settimana di respiro. Okay. Sì, anche okay, perché okay. È presissimo da 1800 cose per il libro nuovo, poi... In realtà mi ero promesso di leggerlo e magari settimana prossima direi qualcosa di intelligente. Però, dai, vediamo, magari no. Io ho letto le prime 10 pagine, ammetto, e devo dire che è illuminante. Sì, nonostante lui lo definisse come sì, un volumetto, un po' riformista, ma ha abbastanza illuminato la via. Ragazzo umile. Quindi tu butti per Gioia? Vuoi che chiami? Dacci un altro nome. Sai che a questo punto darti un altro nome, perché volevo trovare anch'io quello che fosse la sua prima volta. Volevi chiamare mio fratello minore? Però senza numero, mi sa che non sai. No, risponde, perché solitamente risponde. Dai, vi do il numero del mio fratello minore. Vai, buttalo. Dai, proviamo. Però non ci accogliamo nessuna responsabilità e come ti diceremo in modo orribile. Come sempre. Guarda, sicuramente inizierà a insultare me, quindi non avete. Cioè, siete simili sotto questo punto di vista. Ok, perfetto. Dai, ci troveremo d'accordo e ne avremo tante da dire, insomma. Quindi Guglielmo, grazie mille per aver chiamato la radio, penso che tu sia il primo che chiama Radio ZM finalmente e quindi avremo prima o poi anche un numero da chiamare, non soltanto una chat Telegram ovviamente perché è un esperimento bellissimo, grazie. Grazie a voi, buona serata. Ciao Gulli, buona serata, saluta Claudia. Norberto, saluta. Ciao Gulli, buona serata. Spiegato di merda, non avevo più saluti, bastardo. Ero distratto. Ciao. Ciao Gulli. bella potente questa. Bella, bella potente. Ottima scelta, questa. Gulli. Grazie, Guglielmo. Non credevo che l'avrei mai detto riguardo a questioni musicali, ma complimenti, Gulli. Per una volta non sono stati Bloody Beetroots, per una volta non era della Psytrance sanissima che a volte parte alle 7:30 della mattina su Radio ZM, chissà perché. Norberto, dici. Come? Dici? Stavi dicendo una cosa, dici? No, sì, mi ha interrotto, infatti adesso lo dico. Gulli, invece a me non è piaciuta neanche questa volta, complimenti per avermi deluso ancora, ma non è che mi aspettassi nulla di diverso. E tra l'altro adesso invece una persona che difficilmente delude, chiameremo... Aspetta, quanta fretta c'hai di chiamare la gente? No, perché in realtà Gulli, cioè, scusate ascoltatrici, ascoltatori vari ed eventuali, se monopolizzo su Gulli questa cosa, però cioè, Norbi sta palesemente cercando di mascherare il fatto che le questioni sono due: o il popolo ama Norberto o il popolo non ama Gulli. Perché tutti rispondono al primo tentativo le chiamate di Norberto, mentre Gulli veniva un po' snobbato, a quanto dicono i rumors. Che non me ne voglia, Gulli, tu sai che, cioè, figurati, ha voglia. No, ma poi sono i podcast a parlare, perché basta ascoltare qualsiasi puntata di Zona Rossa e assistere a tanti di quei jingle di segreterie telefoniche da poterci riempire veramente un palinsesto settimanale. Ma noi non vogliamo dirlo che così, perché noi non lo pensiamo assolutamente, non c'è duopo pensare una cosa del genere, soltanto Norberto la pensa. Quindi andremo avanti a usare il suo fantastico numero di telefono e ci accingiamo a chiamare solo colei e soltanto colei che può darci un senso a tutto questo per l'ennesima volta. Norberto, hai detto qualcosa? Ho detto che mi sa che non è che il popolo odia Gulli, è che il popolo ama me. Sì, ma intanto qua Non ti sta rispondendo. Pronto? Ehi. Ciao Gioia! Ciao Gioia! Ciao Gioia! No. No, brava, no, non fare finta di non aver capito. Hai capito benissimo, Gioia. Gioia, prima di iniziare tutto, Gioia, avrei una domanda da farti, così approfondiamo il discorso. Tu hai risposto immediatamente perché hai visto che ero io, giusto? Sì, cioè in realtà no, okay. Non lo so, Gioia, sono appena uscita dalla doggia, sono mezza nuda. Ah, Gioia, zona rossa, tutto vabbè, noi per non voi, vediamo. 20:02, Gioia, tutta per voi, dici Norberto. Mi raccomando Gioia, vestiti, non prenderti malanni. E comunque, no, dicevamo prima che mi hai risposto perché ero io, insomma. Hai detto così, assolutamente, giusto? Sì. Ecco, ok, io posso andare tranquillo in pace adesso, allora. Sì, no, è il momento ego trip di Norbi. Cerca di capirci. Dobbiamo assecondarlo, Gioia, no. È normale. Ma quante ragazze hai chiamato prima di me, Norberto? Ovviamente nessuna. Ecco. La sola è unica, lo sai. Lo spero bene. Tra l'altro non ho neanche i numeri registrati di altre ragazze, solo il tuo. Meno male. Confermo, perché quanti ho... siete in radio? Sento un sacco di voci. Siamo in tre. Allora, attualmente in realtà siamo adesso in 18, perché vabbè, ci sono i Beatles, c'è cioè, un po' di gente. Poi è passato Teia a fare, esatto, un pezzo prima. Però, in Metallica. Però mi sa che è passato prima un banditore a dirci che non stiamo rispettando le misure anti-Covid, quindi mi come sa no? Che adesso i Pink Floyd e i Beatles se ne vanno, mi sa. Adesso di sì. Ah, ok. Ma Norbi, non avevi fatto anche tu la proposta per fare uno di quelli lì che vanno in giro a controllare? No? Ah no, scusa, sì, ho sbagliato. Vigilantes. Sì, però dopo che farò il vaccino per il Covid, che tra l'altro faccio domani, quindi... No, comunque alla fine Norbi si era rifiutato perché non gli davano il distintivo e allora non voleva più farlo. Se devo fare una cosa la faccio bene. Comunque, effettivamente un distintivo nuovo starebbe benissimo insieme agli altri, sì, che hai già, sì, guadagnato. Sì, anche perché ho quelli della vecchia collezione, sarebbe ora di rinnovarsi. Sì, ma nel frattempo potremmo fare qualche domanda a Gioia, che è nuda fuori dalla doccia e stiamo rompendo le scatole e nel frattempo Norbi si bulla di cose inutili. Gioia, la domanda di stasera è questa. Dici qualcosa di sinistra. Qualcosa di sinistra. No, vabbè, ok. Grazie mille, Gioia. È stato un vero piacere. Poi abbiamo capito che non hai voglia, va bene. Poi ce l'hai comunicato bene. Però puoi anche pensarci un attimo. Ma cos'è ZAM, oppure cosa dire, che cazzo, cosa fai nel tuo lavoro? Secondo me sono domande, le cose a bruciapelo, aiuto. Beh sì, poi nel momento in cui uno è uscito dalla doccia da due secondi, però questa è zona rossa, quindi ti prego abituati, perché la conversazione con te durerà almeno 40-45 minuti, questo è solo l'inizio delle domande che ti faremo, anche perché intanto che pensi a qualcosa di sinistra, ma sbaglio o è la prima volta che ti chiamiamo? Sì, è la prima volta, infatti volevo dirlo. Va bene, tutto questo è incredibile, Gulli, non so cosa abbiamo fatto in 2 mesi e mezzo di zona rossa, davvero. Neanche il nostro collettivo. Beh, Gioia, nel frattempo che pensi a qualcosa di sinistra, vuoi suggerirci una canzoncina da mettere dopo da ascoltare? Sì, però aspettate un attimo che devo cercare il titolo della canzone, perché l'ho scoperta da poco. Ok. Mi piace molto. Sì, che genere allora è? Che genere musicale è? Non ho idea, ah, però okay. È molto bella. Ok. Quando dice così è perché è reggaeton. È sperimentale. No, non è reggaeton. Allora, prendete appunti. Sì. Allora, il gruppo Dagli. Si chiama Amadou. Faccio lo spelling. No, ce l'ho, Amadou. Et Marianne. Minchia, esatto. Spaccano loro. Vai. E il titolo è Bara. Ce l'ho, vai. Intanto però, ovviamente, nell'attesa di questa bellissima canzone, di questo bellissimo duo, tra l'altro francese, di una coppia francese di ciechi, perché è giusto dirlo, sono due non vedenti entrambi, sfornano delle canzoni pazzesche, un'altra canzone pazzesca è Je pense à toi, che ve la consiglio molto, ma devi dirci qualcosa di sinistra. Ancora? Ma qualsiasi, ma quello che ti viene in mente, una cosa di sinistra. Cosa... Allora vi faccio un indovinello. Ah, ma non l'abbiamo fatto noi a te. Di sinistra è il mio terzo nome. Utopia. No, quello è il secondo. Wow, no, il terzo. E perché il secondo qual è, scusa? Non ve lo dirò mai. Ma neanche un'esclusiva così a zona rossa? No. È vero che ci ascoltano in tanti, però... Cosa ridi? Non ho capito, faccia ridere. Gioia. Ci hai detto qualcosa di sinistra. Ora però dovresti dirci qualcosa di romantico. Oh. Eh sì, per forza. Ci sarebbe... Vabbè, no, sto prendendo un'altra cazzata. Qualcosa di romantico. Non vale il mio nome, so che ci hai pensato, ma non vale. No. E non lo so, oddio. Ci sono tante cose romantiche, dipende dal modo in cui guardi le cose e le persone. Esatto, secondo il tuo modo dici qualcosa di romantico. Beh, questo lo era però, dai. È questo? In qualche modo. Ah, è vero, non ci ho pensato. È quello che ci vedi tu nelle cose, nelle persone, nelle situazioni. Gioia, tu mi stai facendo emozionare, devo dire la verità. Non è facile fare emozionare Norberto. No, non è facile. Facile, non è facile. Grazie Gioia, grazie. Nel frattempo... quanti ascoltatori e ascoltatrici ci sono? Adesso ci attiviamo sul milione e mezzo. Hai presente meno. Il software che guardiamo per osservare il numero? C'è un simbolo che sembra un 8 messo in orizzontale, non sto capendo. Però funziona, Zona Rossa va avanti, anche se abbiamo 8 ascoltatori non è un problema, va benissimo così. Senti, è pronta la traccia del fantastico duo? Yeah. Hai da lanciare un messaggio? Ci penso e poi ve lo dico. Ma come ci pensi e poi te lo dici? Va bene. Grazie Gioia. Mi raccomando, pensa invece durante questa canzone, perché immagino che ascolterai in diretta collegandoti alla radio, qualcuno da chiamare, mandaci un bel messaggio alla chat Telegram. Ah no, tu non hai Telegram. No. Allora dici qualcuno da chiamare al volo. Una tua amica, un tuo amico, qualcuno. Dai, ci penso, raga. Ci pensa, niente, vuole vestirsi. Forse ha ragione, forse no. Mettiamo la traccia, ci sentiamo dopo. Va bene. Ciao Gioia. Ciao Gioia. Ciao. butchered by the joy and the madness that I encounter everywhere I turn. I've seen it all along, in books and magazines, like a drink before dying, like a photographic scene. There's a thought behind the window, there's an ugly laughing man, like a hummingbird in silence, like the blood on my door. It's a shore. I've known it all along, like the blood under my skin, like actors in a photograph, like paper in the wind. There's a hammer by the window, there's a knife on the floor, like turbines in darkness, like the blood on my door. It's the generator. Bentornati 20 e 16 zona rossa. Gigi, Norbi, Lorenzo vi salutano tutti e tutte. Ehi là. Ehi ragazzi, siamo freschissimi. Siamo freschissimi, super morbidi. Quindi non ridere Norbi, cioè, morbidissimi. No, è entrato Vinicio, scusa, puoi aspettare un secondo fuori? Sì, sì, canta là fuori, grazie. Niente. E niente, Norberto, stavi dicendo una cosa veramente molto interessante, anche se non le diciamo mai di cose interessanti a zona rossa, prego. No, appunto, stavo pensando, no? Addirittura. Che sì, beh, ogni tanto mi capita quando non dormo. Che caldo. E dicevo che nella mia generazione soprattutto, ma in realtà anche persone un po' più grandi, un po' più avanti con l'età, nessuno conosce quello che è stato un fenomeno forse breve come durata di tempo, ma importantissimo per la prima storia repubblicana italiana, che è quello della Volante Rossa. Questo gruppo di compagni organizzati principalmente autonomamente dal Partito Comunista Italiano, ma che aveva a volte dei legami, a volte no, è stata una storia un po' complicata, un po' difficile, che ha deciso di non disarmarsi dopo la resistenza e anzi di continuare una resistenza talvolta molto spesso armata, violenta e anche molto e a volte brutale, perché riteneva che gli ideali che avevano guidato la resistenza non si fossero completamente realizzati nella Repubblica. Molto che poi tra l'altro, se non sbaglio, Giulio Paggio faceva parte della Volante Rossa. Ricordiamo Giulio Paggio, il nome della brigata di zona 5. Per esempio, e tra l'altro da loro, da un da un famoso slogan scandito durante il corteo nacque lo slogan, appunto, che diceva: un solo errore quel 25 aprile, aver posato la canna del fucile. E là là, Norberto, grazie. Grazie Norberto. Secondo volevo me... fare un piccolo inciso, cioè tutto questo perché tutto questo è nato da, stavamo chiacchierando mentre ascoltavamo i Bad Religion e Norbi ha detto: ah cavolo, ci sarebbe fare delle puntate tematiche su questo tema, per così cosa. E gli abbiamo detto: dai, allora adesso che finisce la canzone fai lo spoilerino. No, beh. Poi ha parlato mezz'ora, esatto. Wikipedia umano di cose, dei concetti. Ho detto due parole generali, insomma. Vabbè, insomma, ti sei preso la scena, ma hai fatto bene, l'hai fatto bene. Grazie amici, è sempre bello. Io ancora rimembro quella bellissima puntata su Dax che fecimo insieme, cioè freddissimo ancora. Bella puntata. Norberto ha tenuto su 45 minuti, arrivavano messaggi di complimenti, cosa che non succede quando andiamo in onda con Guglielmo, però non volevo assolutamente... Non inferiamo assolutamente. Manda altri messaggi e risponde all'accusa che gli abbiamo mosso poc'anzi sulle risposte al telefono, la segreteria e invece le risposte al tuo numero, quindi si rivolge a te personalmente, Norberto, caro Guglielmo. Non rispondono gli altri perché hanno paura. Di Norberto invece non ha paura nessuno. Questa è la prima affermazione. Vera, comunque vera. E direi è bello così, meno male. Io non voglio far paura a nessuno, io voglio mettere allegria alla gente, non paura. Ma potresti metterti anche il naso rosso da domani, bello. Esatto. Cioè faresti ridere la parrucca papà. Ce l'ho già, se quello me lo compri tu mi fa un piacere, te lo porto domani. Grazie Orso, te lo igienizzo e te lo porto. Sei sempre un punto di riferimento nella mia vita, un faro nell'oceano della mia esistenza. Grazie, sono commosso da questa cosa. Poi potremmo iniziare a dipingerti di bianco e fare come quelle gif bellissime che dicono le cagate e poi le dicono fino in fondo e compari tu da clown. Sai che non è una brutta idea? Eh? E io so uno anche a chi far fare i meme. È un compagno della rete studenti Milano e potremmo chiamarlo. Ma guarda che lampo di genio che è arrivato in questo momento a Norberto. Perché è veramente geniale a fare i meme. Quindi sarà nella tua rubrica, immagino, telefonica. Certo. Dici Eugenio. Eugenio. Beh, gli chiediamo anche di questa sua fantastica carriera compagno decennale nella stesura di dei meme. Chiediamo anche a lui di dirci qualcosa di sinistra. Certo, è anche qualcosa di romantico. Norbi, mi raccomando, intrattieni il tuo ospite. Vai, prendilo. Ehi Norbi. Ehi, caro Eugenio, sei su Zona Rossa, programma settimanale di Radio ZAM. In questo momento ti stanno ascoltando 1,5 milioni di persone all'incirca. Sei in diretta, bro. In direttissima. Siamo io, Pika e Orso. Dream Team. Esatto. Dream Team. Ti abbiamo chiamato perché stavamo pensando una cosa, no? Io ho detto una serie di cose molto intelligenti. Ovviamente Pika e Orso, dalla loro bassezza spirituale, non le hanno apprezzate e mi hanno dato del pagliaccio. Allora ci è venuto in mente il meme, quello del tipo che si traveste da pagliaccio piano piano dicendo un sacco di cazzate, no? Ok, sì. E parlando di meme, io ho detto: ma io c'ho in mente il genio della costruzione dei meme, io lo so chi è il migliore, e abbiamo chiamato te perché mi sei venuto in mente. Che onore. Perché io so che hai la passione per i meme e li fai anche bene. I tuoi sono gli unici che capisco e gli unici che mi fa ridere. E quindi volevamo partire da qui. Spiegaci questa tua passione pluridecennale per i meme. Come è nata, quando è nata, come si è sviluppata? Ma in realtà è nata su Facebook, in un gruppo, tra l'altro, a sfondo politico. Ah. Perché era il gruppo di una pagina che faceva meme a tema antifascismo italiano, molto beceri. Ho capito. E invece una cosa di cui ogni tanto io e te abbiamo parlato in privato, adesso te la chiederò davanti in diretta, non so, potremmo dire mondiale, sì, lo possiamo dire. Lo possiamo dire. Puoi permettertelo. Esatto. Volevo chiederti una domanda un po' più seria: che valore politico possono assumere i meme? Quale valenza possono avere? Secondo te sono un nuovo modo di comunicare messaggi politici importante o non sono adatti a veicolare determinati concetti e devono rimanere, diciamo, nel loro settore di divertimento e basta? Oh, in realtà sì, nel senso che cioè, sono dei... Cioè, è una novità assoluta a livello di idea, perché è un'immagine che trasmette un messaggio molto chiaramente, per quanto sia nato ironicamente, però soprattutto la destra li usa molto a sfondo politico. E quindi secondo te è una modalità che dovremmo fare più nostra? Diciamo nostra, sì, dal punto di vista... Un altro Zammino stava studiando queste cose, tra l'altro. È vero, un compagno di Zan stava studiando queste cose, che sarà il prossimo forse che potremmo chiamare. E chi è? Cigo. Attenzione, il buon è lui Cigo. È lui. Ma invece volevo chiederti se per caso hai Telegram... Sì. E allora ti vorremmo chiedere un ennesimo favore, se hai voglia ogni tot, i meme che sforni, vuoi mandarli a Radio Zam trattino basso chat, che è la chat con cui comunicare con questa radio, puoi scriverci anche insulti, cose, storie, però sarebbe carino se li mandassi lì. Vabbè, Norbi ne aveva un po' che avevo fatto su Zam, da qualche parte. Adesso li tiro fuori, al massimo li tiri fuori tu se non ce li ho più, però bellissimi. Oh, Eugen. Sì. Allora, sono Orso. Innanzitutto ti volevo chiedere scusa per questa squalida telefonata che ti hanno sottoposto i ragazzi qua, veramente mi dispiace. Cioè, io non pensavo che Norbi avrebbe fatto veramente così, cioè, però vabbè. Quindi prima domanda, cioè, la prima cosa che ti dico è scusami. Va benissimo, okay. Non c'è problema. La seconda cosa, la seconda richiesta che ti faccio è se ci puoi dire qualcosa di sinistra. Ma non sono Zingaretti, quindi non sono abilitato a un simile arco. Attenzione, non so se Guglielmo ha sentito questa risposta, che io metterei proprio in archivio, la scriverei, la editerei. Sì, ma Eugenio è solito a queste affermazioni forti, è un ragazzo veramente di un certo valore, sì, assolutamente. E adesso, sai, Orso ti chiede qualcosa di sinistra perché lui è un po' più, diciamo, burocrate, se si può dire, rispetto a me. Certo, dillo pure. Però io, che sono un po' più libertario, un po' più... per l'appunto romantico, ti dico dici qualcosa di romantico. Ma di romantico non so, mi ricordo una frase che mi avevi detto tu in situazioni molto poco sobrie. Cioè, dilla. C'è l'alba è dorata, al tramonto è di piombo. Bellissima. Citazione di uno striscione degli ultras del Genoa. Te. All'indomani di una gambizzazione di qualche infame. Sì. Sobrietà. Tra l'altro, Eugi, tu sei il primo studente che viene chiamato a Zona Rossa. No, di no. Ah no? No, secondo me no, però così su due piedi non mi torna. Ma potremmo andare avanti. Quello che so c'è Chiara che ogni volta latita le chiamate. Ah, Chiara! Quasi adesso chiamiamo anche lei, va bene, perché poi lei comincia a ridere e non smette più. La Cocchi mi sa che abbiamo provato a chiamare. Vabbè, ma la Cocchi studentessa, dai, è un po' azzardato come termine. Giusto, dai. Giusto. Ma invece, Euge, dacci un titolo di una canzone che mandiamo adesso in radio, che scegli tu. C'è un ampissimo spettro, cioè deve essere compagna di un genere particolare. No, basta che non è, basta che poi puoi mettere, cioè puoi rivendicartela, ecco. Qualsiasi canzone che tu ti voglia rivendicare in qualsiasi forma. Daddy Cool. Bellissimo. Si vede che sei veramente, hai veramente buon gusto. E niente, dopo questa ultima leccata di culo di Norbi... Esatto, verso solo e soltanto i suoi amici. Veramente disgustosa, e ci scusiamo, Euge, che di questa cosa che cui ti abbiamo sottoposto. Super bella, guardate. E ti ringraziamo, nel frattempo stiamo recuperando il vinile di Daddy Cool. Sto scavando nella libreria, un secondo. Perché Euge, noi abbiamo solo vinili, cioè noi mettiamo solo vinili, cioè non è che scarichiamo gli MP3 da un programma a sgrundo, no, live su YouTube. Pieno di... No, noi abbiamo... Anche alle serate sempre... Bravo, vedo che sei informato. Come il buon Gigi ricorda spesso, quando gli artisti passano qua, oltre a ringraziare e a dirsi di quanto si sono trovati bene sia con la folla che con l'organizzazione, ci lasciano i dischi poi. Quindi è naturale, certo, che noi mettiamo vinili. Ora l'ho finito di spolverare, quindi è pronto. Che dire, Norberto? Grazie Eugi, il tuo contributo è stato fondamentale anche oggi. Sintonizzati spesso su Radio Zam, perché è la prima chiamata ma non sarà l'ultima. Esatto. Ed è una minaccia, è una minaccia. Vai sul sito di Zam, in alto a destra, clicchi e parte la radio. Sì, sì, no, presente, presente. Giralo in tutte le varie chat, sia Telegram, WhatsApp, Signal, Messenger, tutto quello che vuoi. Bonnie M, Daddy Cool, grazie mille Eugenio, buona serata. Ciao, buona serata. Ciao Eugi, ciao. Ciao a voi. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? temptress. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Tentando questo esperimento molto grottesco. Chi c'è di là? Pronto? Chiara? Ciao. Cocchi? Ciao. Siete su Zona Rossa. Cigo? Quale onore. Radio ZM. Cigo, ci senti? Ciao compagni. Allora, come state? Bene, voi? Bene, bene. Hai visto come, Cigo, riusciamo a ampliare il nostro raggio d'azione di controllo del territorio, delle comunicazioni? Questa è una cosa meravigliosa. Cigo, ci abbiamo messo almeno una settimana per progettarlo, 3 giorni di test e poi oggi è andato tutto bene. Pensa un po', sì, ce lo siamo preparati un po', non poteva niente andare sbagliato perché era tutto calcolato fino all'ultimo secondo. Cigo, iniziamo da te, non perché tu sia più importante, ma perché sarai quello che, con cui intanto, parleremo di meno. Ma perché non lo sei? Intanto le altre due possono prendere il link della radio e mandarlo a tutti i gruppi a cui appartengono su tutti i social che hanno. Chiara, grazie, grazie. Chiara, anche quello dei servizi segreti israeliani, esatto, mi raccomando. Esatto, anche quei gruppi lì, anche sì, quei sì, gruppi lì. Sì, Cochi, tu avrai sicuramente un gruppo di scienze politiche, vai, e a rotazione chi non parla faccia questo, per favore, grazie. Cigo, dici. Allora, Cigo. Ok. Cigo, mi senti? Cigo? Sì. Allora, come va in quel di Assago, dici? Ma bene, dai. Oggi è un po' noiosa come giornata. Ah sì, non è fatto molto, sei un po' annoiato. No, ho provato a cambiare le gomme della macchina, ma non ce l'ho fatta. Sì, vabbè, dai, MacGyver, su. Allora, però vedi, Cigo, io sono tuo amico da un po', no? E so una cosa che non tutti sanno, che tu a casa hai un coniglio. Sgracchio! Esatto, parlacene un po', dai, dici un po', parlaci un po' del tuo coniglio. Allora, tra l'altro un coniglio nano, non è un solo coniglio. È un coniglio nano? È il coniglio nano più vecchio del mondo ormai? Eh sì, ha 104 o 105 anni? Vai per i 106. Ah, ecco, vedi, mi ricordavo bene allora. Ed è il tipo un coniglio fattone, nel senso che chi è venuto a casa mia lo sa, passa la maggior parte delle giornate a gremare. Cos'è che... Ah, qui... veramente? Sì, cioè lui ha la particolarità che è l'unico coniglio che grema. Sì. E assume questa posa particolare. Ma acquista da solo. Si grema in pratica. Ma va ad acquistare per i fatti suoi? Eh? Acquista per i fatti suoi o fai da tramite? Acquista per i fatti suoi e non manda neanche perché Ah, pure. Ma lui è così, raga. È veramente un fenomeno. Un'altra particolarità è che è compagno e vuole la rivoluzione, tant'è che si mette a lanciare le ciotole. Vero, vero, anche questo è vero. Noi andiamo a letto, cioè, non, nel senso, non io e Cigo, però quando sono a casa di Cigo a dormire sento ridere da dietro. Andiamo è a letto anche quello, andiamo però a letto in letti rigorosamente separati e durante la notte sentiamo dei rumori strani e la mattina le ciotole sono ribaltate. Tra l'altro, ribaltate non in maniera casuale, ma a formare delle barricate, tra l'altro. È veramente tutto interessante questo. Tutto questo è incredibile. Abbiamo telefonato a 3 persone per parlare del coniglio di Cigo. Tutto questo è incredibile, estremamente triste. Ma invece, a parte che non vedo i mi piace e gli ascolti nuovi che dovrebbero fioccare dalle nostre social media manager che evidentemente stanno più ridendo per Cigo che per altro. Sì, ma Chiara sta ascoltando Radio Tel Aviv probabilmente. Beh, ovvio. Invece io mi riferisco a Cocchi. Ce l'ho. Cocchi, mi senti? Sì, ti sento. Perfetto. Mi dicono che forse sei al lago. No, sono tornata, sono tutta ustionata. Mannaggia, anche Sushi che salutiamo è tornato tutto ustionato ieri che ha fatto il giardinaggio sotto il sole. No, niente, Cocchi, volevo chiederti una cosa che stiamo chiedendo un po' a tutti e tutte che chiamiamo stasera. Ci puoi dire qualcosa di sinistra? Posso dire qualcosa di romantico? No, prima terminiamo la puntata e la scaletta, per favore, attenzione. Io invece sono per far parlare la compagna. Grazie. Però, ma tu puoi parlare. Potete chiedermi di... No, stai zitto, Nabio. Potete chiedermi di dire qualcosa di romantico, perché sennò non è la stessa cosa. Certo, puoi dirci qualcosa di romantico, Cocchi? Leningrado. È preparata la ragazza, eh? Preparatissima la ragazza. E a proposito di ragazze preparate, Chiara. Stavo a posto. Chiara, mi senti? Chiara? Mi sa che no. No. Ma fino a un secondo fa sì. Aspetta che prendo l'apparecchio nuovo e lo collego al 24esimo cavo. Aspetta che giro un attimo la valvola. Ma è quello che ci ha portato Tupac? Sì, sì, esatto, quello. Okay. Sì. Però poi è passato un attimo Inoki. È un casino capita. Quando passa Inoki è un casino. Sì, tra l'altro Inoki c'ha le chiavi della radio, quindi cioè. Niente, Cigo, dici qualcosa perché... Sì. Dici qualcosa di sinistra e di romantico. Dico qualcosa. Sì, passiamo direttamente alla domanda a te. No, di sinistra e di romantico. Ah, qualcosa di sinistra e di romantico. Certo. No, non tutto in una volta, prima di sinistra e poi di romantico. Ok. Quello di sinistra è difficile. Dai, Cigo, non abbiamo tutto il giorno. Cigo, puoi dire qualcosa? Puoi dire qualcosa che ci diciamo noi in chat di sinistra? No, diciamo che quello è meglio di no. viene in mente una citazione romantica del nostro compagno Dupe. Vai, dilla che lui è un... Che è anche di sinistra, vai, volendo. Vai. Perché... Chiara, sei tornata. Cigo, non si è capito un cazzo, puoi dirci, per favore? Che per conquistare una ragazza, un ragazzo... In base a quali sono i nostri gusti... Tu sei sicuro di volerla dire, Cigo? Che è bello. Dilla con voglio dire ai nostro milione e mezzo di spettatori, ormai 1.800.000, che mi dissocio da quello che Cigo sta per dire. Io non l'ho mai sentito, no, e se l'avessi sentito non avrei mai condiviso. Attenzione Vai Cigo, vai. No, che bisogna dire alla seguente, cioè alla persona amata, che è bello come i lacrimogeni al tramonto sugli Champs-Élysées. Io non li ho mai visti, qualcuno magari sì, così dicono. Qualcuno? Qualcuno? Qualcuno, esatto. Qualcuno? Ho capito, bene. Quindi questa cosa è una cosa che ha detto il compagno Dupe. È un immaginario molto zona rossa, sì, noi lo apprezziamo. Ma niente, dai ragazzi, allora... Orso, cos'era quella faccia? Dici. Sai che Chiara sta boicottando volutamente... No, io volevo chiedere scusa alla Cocchi per questo squalido teatrino che mi spiace, cioè se avessi saputo che diventava così... No, ma un piacere. Okay. Io aspettavo la chiamata alla zona rossa perché adesso me la voglio chiedere io la canzone. Ah, infatti... Oh, brava Cocchi! Ma scusa Cocchi, posso farti una domanda? Sì, dai, va bene. È la prima volta che vieni chiamata da Zona Rossa? Sì, non so se per fortuna oppure no, ma sì. Beh, già che te lo Rocky, pieni è tanto. Io invece ho una domanda personale. Cigo, la smetti di fare il sub? Cosa stai dicendo? Che è purtroppo che è solo la prima volta, perché è bello essere chiamato dai compagni di Zona Rossa. Ma allora mi sa che hai sbagliato il programma, perché tutte le telefonate che partono da qua normalmente sono super moleste, sei tu che sei estremamente gentile da non farcelo notare e non riempirci di insulti. No. Ti rettifico, Pica, Cigo è estremamente da solo, non gentile, è estremamente solo, questo fatto. Questo è assolutamente vero, una volta a settimana. È quella persona che quando la vedi ti cambia la giornata, mica come te. Ma va. Ascolta, ma Chiara c'è o no? Non ho capito. No, non c'è, cioè, ci sta boicottando. Io la inserisco nella chat e esce fuori da sola. Ah, e beh, dopo la chiamiamo noi singolarmente. No, io provo a rimettere. Cocchi, nel frattempo parla con me, che qua sono tutti rincoglioniti. Scegli, dici la canzone che vuoi ascoltare. Voglio ascoltare Siberia Dreaming. Identitaria come poche, ma romantica come pochissimi. Non ho sentito niente della risposta, ma... Era un giubilo. Ah, giubiliamo tutti insieme. Chiara, ci senti? Malissimo. Noi invece ti sentiamo molto bene. Ok. Vai, Norberto. Chiara. Dimmi, tesoro. Come va? Cosa stai facendo di bello? Niente, ho appena cenato, adesso mi sto fumando un brumino. Devi smettere di fumare, Chiara, fa male. Norberto, ne abbiamo già parlato. Ascolta, Chiara. Ascolta, Chiara, dunque, stiamo praticamente raccogliendo dei sondaggi per poi... tirare su un bando per una cosa con Beppe Sala, Fontana, poi ti spiegheremo. Quindi ci sono due domande che vogliamo farti. La prima è: dici qualcosa di sinistra. E la seconda è: dici qualcosa di romantico. Ok, allora. Non vale dire il mio nome, eh? Qualcosa di sinistra. Ti direi un po' una frase che secondo me riassume il nostro stile di vita, che può essere: attenti sempre, vigili mai. Bella, invece, bella. Giusto. Per quanto riguarda... Cigo, tu silenzio che sei della stradale. Qualcosa di romantico? Sì. Oddio, qua mi metti in difficoltà perché... Dai, lo so che sei una romanticona. Vivendo con te capisci che le cose di romantico sono talmente tante. Qualcosa di romantico, direi, io seguo solo una linea, la salateria. Va bene. Molto bene. L'ultima domanda per la Cocchi, personale. Cocchi, tu sei fidanzata? No, tesoro, sono libera per te. Ok, grazie. A posto, grazie ragazzi per questo esperimento sociale veramente mal riuscito. Mi siete, siete stati veramente importanti. Sappiate che questa triade verrà perseguita ancora per un po'. Sì. Cioè, ci è piaciuto come test e lo porteremo avanti. Si ha raggiunto picchi di negatività molto bassi. Chiara, scusa se Pica ha detto perseguitare, ma la sua sensibilità storica è veramente pari a zero, perdonalo. No, vabbè, ma ci sono abituata. Lo so, da 5.000 anni ormai, dai babilonesi. Capisci ci sta. Che... Va bene, dai, grazie a tutti. Queste Siberia Dream e tutte, brave. Scusa per Norberto, però in anni e anni di esperienza ancora non ci arriva e niente, è dentro di lui, è quel germe lì. Io bruttissimo. Io ci sto provando. Ma anche noi, però grazie. Iniziamo a capire che vediamo. Grazie ragazzi. Questa si è bella di venire scelta da Cocchi, la prenderanno a posto. Dicono che sono strano, per fortuna purtroppo lo sono. Sembro un ragazzo tranquillo, silenzio prima del tuono. Tu con il ferro, video musicale, io con l'acciaio. Piano qui biennale, non si può più parlare di classi. Il mondo è cambiato, io non credo proprio. Tu sogni i negozi coi saldi, telefono nuovo, io sogno l'esproprio. La forca per l'ultimo papa, budella dell'ultimo re. Si spera nel regno dei cieli, ma intanto giustizia sociale non c'è. Per fare sta roba bisogna sporcarsi le mani. Per fare sta roba Sovet possiede pannelli solari. In aria come aeroplani, zero confini, Yuri Gagari. Per sti scemi neoliberisti, Siberia colli come con Stalin. Dimmi qualcosa di romantico, Leningrado. Nazi alla conquista, morti su un selciato. Il tuo decoro, gabbia sbarre d'oro. Ho un flow che ti rapisce, com'è? Aldo Mo. Rosso di sera, bel tempo si spera. Regionale Milano in Siberia. C'è troppo caldo a Milano e si sclera. Metti la crema nell'impastiera. Non è un pranzo di gala, non hai guanti di seta. La lotta di classe fra non è acqua, no, non ti disseta. Questo fango non si spalerà da solo. Prendi tappa vanga quello che ti serve. Poi brr brr brr brr brr, la mia crew va più ben BR. Non è Nicolè Linin, ma non è male come educazione. Io mi leggo gli eni, non cade nell'alienazione. Dimmi qualcosa di questa società e di come ti tratta. Ti resta poco in mano anche quando si tratta. PGLV, già sai di che si tratta. Espresso della Bamba è il nome della mia tratta. Pane rosa per te ho comprato stasera. Gago piombo, sogno Siberia. Quei soldi di crazzi nel retro del taxi. Prima di nuovi uffici o viaggi. Giusto per credere e per capire le mie mire. 2017 e tiro ancora monetine. Tangente storta ad una piccola impresa del circondario. Da un Mario l'esolato che fa quello casa e chiesa come Mario. Zero rispetto per baciapile alla Cosimo Mele. E sono tanti, ognuno dà il suo campo. E tutti comprano la coca nei campi. Non ti faccio la morale perché ho già chi me la fa. Tutta immagine com'è questa città. Salta sul treno per la Siberia. Non c'è coda per il bagno. E vinto un soggiorno in un gulag della catena. I viaggi del compagno. RC Pepo, nomi è tu, fai il king, io il bolshevik. Tu scrivi su Corriere ma freddi, io leggo il Prada, baby. Far East, Deep South, living in Siberia, tra tu vede hell out. Miniere no, crociere, tempo di tacere, turn shout. Su sto ritmo di incanto, metto bombe sotto l'asfalto. Aspetto che tu passi per farti saltare in alto. Carrero blanco, su sta trap ci dabba jab. Da via rasella, mind the gap. Si chiudono le porte, il treno parte, sali a bordo, alza. Fumo bong, faccio rap, Viet Cong sotto il tetto. Niente punto com, niente punto net. Più com interno, più internet. Non sappiamo dove andare a parare, ma sappiamo dove andare a sparare. Tu vuoi sapere dove andare a spalare? Ti andrebbe di partecipare a un video ufficiale? Non sappiamo dove andare a parare, ma sappiamo dove andare a sparare. Tu vuoi sapere dove andare a spalare? Ti andrebbe di partecipare a un video ufficiale? Beh, carina questa. Grazie Cochi, se l'era proprio messa da parte. Beh, da quanto che la covava. Rap Verna non delude mai, lo sappiamo. No, assolutamente, infatti siamo in astinenza da live qua, perché alla fine è vero, io lo ammetto, io sono in astinenza da live. Sì. Anche se fosse solo per i nostri, cazzo. Già. Quindi, cioè, ti acchitteremo in qualche modo, poi vediamo. Però, Norberto, dici. No, beh, diciamo che a proposito di astinenza da live, okay. L'altra notte ho proprio sognato la prima serata che rifaremo a ZAM e ho pensato che dovrà essere veramente esplosiva. E a tal proposito io e Fergi ci stiamo attivando. Dai, attenzione. Con delle novità che non vi spoilerò. Sarà molto interessante vedere, scoprirete. Ma Nabi, ma dici qualcosa di sinistra, almeno tu. Certo, la proprietà è un furto. Attenzione. Bella, perché bella, questa te l'hai preparata però, sì. A farla. No, non è che me l'ho preparata, sapete, sono un uomo di cultura, quindi... Scusaci, Norbi. noi umili laureati e te mezzo studentello farlocco, ti chiediamo scusa. Arrivano dei messaggi cattivissimi sul canale Telegram, sulla chat Telegram di Radio ZM, che è Radio Zam trattino basso chat. Cigo ci scrive Molotov in caps lock, scritto bello grosso. Ma noi andiamo avanti, noi andiamo avanti. Grazie Cigo per questo contributo. Cigo la carogna. Come al solito Cigo dice parole disconnesse totalmente dal contesto, Norberto, che non si capiscono. Prendi questo telefono in mano, l'ultimo messaggio che c'è scritto, leggi due o tre di quelle citazioni lì, però con enfasi belle potenti, che intanto andiamo a chiamare solo lei, perché è soltanto lei. Vai Norberto, vai. Segui il tuo cuore, vai, leggi. Norberto ci ha chiesto, ma devo leggere le parole. Dipendenza da quiz. Vai avanti. La roba è la fava. Vai avanti. Formiche al galoppo. Scusate adesso. Dai Norberto, faccela. Sti cazzi teca. Domande per nonni. Sapientino colpisce ancora. Imparare. Ginnastica mentale per braccia rubate. Questa è un'ottima risposta. E che so, a questa affermazione noi ci fermiamo qua, perché stava diventando veramente pietoso come cosa. Grazie Norberto, sono d'accordo. Chiamiamo soltanto lei, perché Perle solo lei ci può rispondere a tutte le domande. Eccola, è soltanto lei. Buonasera. Ciao, ho appena finito di mangiare. Cosa hai mangiato? Ho mangiato della pasta al ragù. Buona Chiaretta, che abbiamo una fame qua, che adesso scanniamo Norberto. Sì. Ti aspetto qualcosa? Voi vi nutrirete, non siete contrari. Ma lo sai che zona rossa ti priva pure del cibo, talmente intensa tutto questo. Vero che oggi abbiamo dato il peggio di noi, Chiara, vero. Oggi... Allora, devo dire che sono rimasta alla telefonata di Eugenio e poi vi ho abbandonato. Beh, fino a lì già, però non so se le premesse mi avevano già fatto crollare le balle oppure se Norberto che ci spiegava che cosa... perché più compagni di tutti noi hanno proseguito con questa cosa, quindi non lo so, sono un po' confusa, ecco. Cioè, pensa che poi siamo pure senza Stide stasera, quindi immaginati, cioè, veramente, senza Guglielmo. Abbiamo pure fatto... Fanno una media di neuroni di una persona normale, quelli di Gulli più quelli di Stide. Perché Stide ce n'è un botto. Certo. È al doppio di una persona normale. Ah, per Guli zero proprio. Esattamente, sì. Tra l'altro Chiara... Però con fierezza. Lo porta come un vessillo nella sua... Quindi vabbè, alla fine se la rivendica, giusto così. Giusto così, Chiara, è vero, scusami, vero. Visto che è un po' che non ci vediamo, volevo aggiornarti un attimo sulle novità metapolitiche religiose di Milano Sud. E volevo farti sapere che Marco è diventato il sindaco di zona 5. Bene. E Meme è diventato l'arcivescovo di Milano Sud. Sì. Con il nome ecclesiastico di Don Padre. Lo puoi intravedere a Zam che gira con... Hai presente il colletto bianco? Quello piccolino, il quadratino? La camicia o la polo? Perché è stato... Ma il quadratino, tu sai che non è un quadratino, è solo sì, che certo. Si vede solo quel sì, pezzo. Sì, sì. Però solo lui, però leggermente sbottonato perché ha il sex appeal. Leggermente sbottonato. Ci sta. Esatto. Lui c'ha il quadratino soltanto, tipo i poveri che c'avevano i polsini attaccati alla giacca per non avere la camicia sotto. Esatto. Allora c'ha il fake quadratino da sacerdote. Bene, vedo che vi trovo in grande forma comunque. Tutto va come dovrebbe andare, insomma. Esatto. Niente di irregolare. Esattamente, ne sono entusiasta. Chiara, insomma, ma io, tra virgolette, nella chat in cui c'è anche quell'altra becera persona che ci sta dando delle merde in chat perché stiamo praticamente dedicando la puntata di insulti a lui, come giusto che sia, e però non so se si è arrivati a... Io però avevo un po' modificato la cosa insultando un po' te su quella chat, quindi comunque esatto, ho cercato di esatto, riportare un po'... Esatto. Sì. Beh, abbiamo tenuto buono. Adesso ho delle cose da raccontarvi. Cosa? Mi stavi per chiedere se ho delle cose da raccontarvi? No, in realtà no. Volevo insultare Guglielmo, però volevo capire se stavamo parlando del discorso della carta bianca o se avevi scelto qualcos'altro, se no lo intavoliamo. Allora, perché spieghiamo per i miliardi di ascoltatori all'ascolto, tutto questo è iniziato con un oggi è carta bianca. Esatto. E con da carta bianca è partito una serie di tematiche no sense che andavano dalla produzione della carta alla cocaina per ovviamente l'hai detto tu, brutto tossico. Ma no, non lo dico io, lo dice quell'altro scemo che ogni tre battute deve fare una battuta sulla cocaina. Che schifo, gatta ci cova. Poi dice, fa un sacco di cose, sempre attivo. Qui dentro il più sano c'ha la rogna. Vabbè, ma lui però, tu non sai, la leggenda vuole che lui sia caduto nel calderone come Obelix da piccolo, quindi non ne abbia più bisogno. È già dentro. Sì, no, lui ha già fatto 2 anni e mezzo, è finito nel calderone e quindi dove stavano peraltro di un laboratorio di metanfetamine e lui c'è caduto dentro ed è rimasto così. Misto fra Joker e Obelix, insomma. Tutto questo è incredibile. Esattamente. Bello. C'è pure cosa ci ha preparato alla fine. Esatto. Quindi alla fine nel mezzo di questo delirio c'erano delle origini del gioco d'azzardo. Ah, è vero. Era fra carte e quindi gioco d'azzardo. L'ho lanciata io, mi sa. Ma infatti sono il compagno della Madonna. Guarda. Volevo sottolineare. Devo dire onde da qualche parte. No. Senso della disperazione, posso dirlo. Salutiamo Franco. Senso della disperazione. No, esatto. Dici. Vabbè, niente. Allora, io in realtà, se volete, vi racconto un po' delle sciocchezze che ho reperito. Dici. Stante il fatto che parlare del gioco d'azzardo in realtà non è così semplice, quantomeno delle sue origini, non è così semplice perché presuppone due cose. Cioè, da una parte, il ritrovamento di determinati strumenti che possono essere utilizzati per il gioco d'azzardo e contemporaneamente la certezza del fatto che venissero usati per giocarci d'azzardo, cioè nel senso che possiamo trovare dei dadi per esempio e però magari questi dadi non servivano per scommettere oppure potrebbero avere scommesso per decenni facendo testo croce e noi potremmo pensare che sia una semplice moneta, quindi come dire, andare a scovare le origini del gioco d'azzardo non è così semplice. Intanto, è complicato. Il gioco d'azzardo è la scommessa sull'esito di un evento aleatorio. Oggi stiamo imparando un sacco di parole nuove. Guarda, stamattina in chat abbiamo scoperto il defesso e adesso pure aleatorio. Cioè, fantastico, praticamente un pozzo di... No, non lo dico a Norberto che ovviamente lo sapeva già perché Norberto sa già tutte le parole sotto le 17 sillabe, però quel merda si era tolto le cuffie. Guarda, non ti stava neanche ascoltando. Quel cesso si era tolto le cuffie. Scusa Chiara, una che delusione. Ho le orecchie calde, mi dà fastidio. Cosa mi hai detto? Dimmi tutto. No, non ripetere, non ripetere, non se lo merita. Non esiste. Ovviamente niente. Ascoltati il podcast, Norberto. Dici, prosegui pure, Chiara. Allora, diciamo, intanto, proviamo a dire comunque due cosine. Allora, intanto ho usato l'esempio dei dadi non a caso, perché probabilmente il primo mezzo di scommessa sono stati i dadi, ed effettivamente il termine azzardo deriva dall'arabo azzar, che vuol dire dado per l'appunto, passando poi dal francese che si dice hazard e vuol dire rischio. Ora, i dadi sono di, di, trovati, ne sono stati trovati in giro per il mondo diversi, in diverse epoche, ognuno ha le idee un po', le teorie un po' sue. Verosimilmente sono di origine asiatica. Ok. Per qualcuno i più antichi sono di origine cinese e risalgono intorno al 4000 avanti Cristo, quindi parliamo di un bel po' di tempo fa. Altri invece li situano un migliaio d'anni dopo in Mesopotamia. In entrambi i casi comunque sono probabilmente delle evoluzioni degli astragali, che sono degli ossicini dei piedi e delle zampe, a seconda della specie. Io non sono antispecista, però magari Norberto sì. Comunque, sì, da decenni ormai. Comunque diciamo, per l'antispecista Norberto, zampe o piedi va bene uguale. Sono degli ossicini di forma tetraedrica che venivano utilizzati per giocare, e venivano fatti tipo il giochino, non so se qualcuno di campagnolo tipo me, tipo il buon Lorenzo ha mai giocato a questo giochino, ma è quello che si prendono i sassi, si tirano, nel frattempo se ne prende un altro da terra e poi si riprende in mano anche quello. Ma è un giochino di abilità sostanzialmente, fatto di lanciare e riprendere dei sassi, o in questo caso delle sorte di dadi. Sassi sì, dadi no. Ecco, i sassi, infatti, anche io facevo da piccola con i sassi. Quindi effettivamente probabilmente i dadi arrivano da lì, sicuramente il materiale con cui erano fatti era esattamente quello, nel senso che erano osso, legno, metallo, a seconda delle versioni, ma altrettanto probabilmente da lì arrivano i dadi. Dadi che vengono anche citati dai Veda indiani, quindi siccome siamo comunque in Asia, ma ci spostiamo di zona, nel quarto millennio avanti Cristo ci spostiamo decisamente più a ovest e finiamo in Egitto, dove si gioca questo gioco che si chiama Senet, che era un gioco molto antico. Sì, era un gioco in realtà giocato per il primo periodo solo dalla classe sociale dei faraoni, quindi solo dalla super upper class, che è una sorta di, diciamo, precursore della dama e del backgammon. In realtà anche in questo caso non si sa bene se possiamo dire che fosse un gioco d'azzardo, perlomeno lo era in senso un po' ampio, nel senso che il gioco di questo gioco del Senet era un gioco che aveva una funzione multipla, cioè era sia un gioco, diciamo, di sfida come può essere la dama, ma anche un gioco con tutti dei significati religiosi per decidere il proprio destino nell'oltretomba, e quindi che cosa sarebbe successo nel passaggio alla vita dell'aldilà. È la Madonna. Quindi con questo diciamo gli strumenti. Esattamente, sì, era una sorta, tra l'altro fighissima, ce ne sono alcuni fighissimi online. Infatti Senet in realtà vuol dire proprio passaggio. Era una sorta di dama metà, come se fosse metà dama, e con i dadi si utilizzava per fare un gioco simile al backgammon, diciamo. Detto questo, questa è la parte degli strumenti del gioco. Per quanto riguarda invece le scommesse vere e proprie, cioè quando si inizia a cacciare il grano, Anche qui i cinesi hanno la prerogativa, nel senso che sono state ritrovate delle piastrelle per delle scommesse risalenti al 2300 avanti Cristo. Delle piastrelle? Delle piastrelle su cui si segnavano evidentemente delle scommesse fra diverse persone. Sappiamo di per certo che già dal primo millennio avanti Cristo si scommetteva sulle lotte fra animali, quindi erano già sul pezzo. Addirittura ho trovato una cosa fighissima, perché pare che alcuni tipi di lotteria siano stati utilizzati nell'antica Cina, diciamo nella Cina del 200 avanti Cristo, come una sorta di lotteria per finanziare dei lavori statali, e forse addirittura parte della costruzione della muraglia cinese. Praticamente come le nostre bellissime lotterie di Natale per il legale, cioè pensa quanto socialismo. Grandi riferimenti culturali. Esattamente, noi come la muraglia cinese praticamente, pensa Norbi, che pezzettino, per quanto inutile, di un grande disegno. Quindi, okay. quindi si potrebbe azzardare un paragone che è azzardato appunto, ma secondo me è calzante, che tipo Gulli. Se dici azzardo, azzardare per fare un gioco di parole, ti dispiace. Sei molto arguta. Sei okay. molto arguta, perché era una costruzione lessicale apposita, ti dirò. Madonna mia, che tristezza. Quindi questo Natale che Gulli ha fatto il pagliaccio con la lotteria, presentando i regali della lotteria, minchia, i premi, cero, così si potrebbe dire che era una sorta di capocantiere, ecco, uguale. Più o meno sì. Più o meno sì, che era un po' un cinese del 200 a.C. Beh, Gulli in effetti ce li ha dei tratti, insomma, ce li ha, cinesi, ce li ha. Sì. Anche corporei. Sì, ce li ha. E anche del 200 a.C. Anche del 200 a.C. effettivamente. Sì. 2200 anni li porta comunque bene Gulli, sì. Dai. Sì. In grande forma. Chiara, ma per fare un passo indietro, quando si parla di scommesse con gli animali, nel senso la morte degli animali, cioè tipo la mia mucca vive 30 anni, la tua 20, scommettiamo? Quello? No, lotte tra animali. Ah, lotte, non morte, non la morte no, tra gli no, animali, lotte, ah, lotte. Lotte. Madonna. No, lotte come, insomma, tra gatti, certo. Fra... Sì. Non necessariamente il cruente che dovevano morire, insomma, però, tant'è. Diciamo... Subito dopo i cinesi, anche qui arrivano gli egiziani. Non a caso, effettivamente l'origine del parola azzardo arriva dal Maghreb, quindi probabilmente lì ci siamo. Ed effettivamente nel 1500 a.C. ci sono dei dadi, sono stati ritrovati dei dadi del 1500 a.C., probabilmente a questo scopo, dentro nelle tombe della gente. Passiamo ancora avanti. Nelle tombe? Dentro le tombe? Quindi come dire, puoi farti la giocata dall'altra parte. Esattamente. Passiamo al di là del Mediterraneo, diciamo nell'altra sponda del Mediterraneo, e passiamo all'antica Grecia, che erano molto amanti del gioco d'azzardo, parecchio. Tra l'altro addirittura loro avevano le loro teorie completamente false su chi avesse inventato i dadi, e secondo loro era un eroe mitologico durante l'assedio di Troia, ma è tutto falso, come abbiamo visto. Però tant'è, sai che loro si rivendicano un po' tutto. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Tutto loro. Ed effettivamente anche nel loro caso il gioco dei dadi era nel loro caso era un accompagnamento quasi immancabile dei banchetti. In realtà era un divertimento molto patrizio, anche perché probabilmente i plebei non c'avevano niente da giocarsi, quindi c'era poco da scommettere, però in realtà era un gioco che si faceva ai banchetti e si scommettevano discretamente dei bei soldini. Ora, in realtà pare che addirittura Socrate, che uno dice un pozzo di saggezza, no, so di non sapere, genio. Beh, insomma, pure lui pare che non sapesse neanche smettere di giocare, e che infatti abbia perso parecchio al gioco. Predica bene, razzola male, hai capito? Come i preti. Quindi sì. Diciamo infame. Che per concludere questa cavalcata, quelli che avevano ancora più il vizietto erano i romani. Figurati. I romani proprio si infossavano di scommesse, termine tecnico che Figurati. Ho cercato ovviamente, si infossavano come i pazzi, amavano giocare a qualsiasi tipo di gioco e in realtà apparentemente qualsiasi tipo di occasione anche, tanto che addirittura ci sono un sacco di racconti di giocatori professionisti, e ci sono alcuni dadi conservati nei musei di origine romana truccati. Facevano già gli scavalli nell'antica Roma, ed effettivamente ci sono anche tutta una serie di affreschi che ritraggono dei giocatori di dadi che litigano, tra l'altro. Addirittura ce n'è uno che ritrae dei giocatori di dadi che litigano dopo essere stati espulsi dal proprietario della casa pubblica in cui si trovavano. E effettivamente effettivamente, insomma, vizietto per vizietto, a un certo punto, poco a poco, tutte le forme di gioco d'azzardo, comprese i giochi a dadi, vengono proibiti nell'antica città di Roma, e quindi alla fine potevano giocare soltanto durante Saturnalia, in cui potevano giocare perché pregavano e facevano dei sacrifici agli dei, e quindi andava bene, c'era la dea fortuna, potevano farlo perché era socialmente accettabile. Questo per dire che in realtà è addirittura quelli che venivano beccati in flagrante potevano avere delle sanzioni che arrivavano tipo a 4 volte la loro scommessa. Quindi tu ti trovavano a scommettere 5 sesterzi, via, 20 sesterzi balzavano. Sapevi questo già cosa andavi incontro. Sì, ha fatto sì che i cittadini romani, che erano sgamatissimi e ci avevano già i dadi truccati, hanno inventato probabilmente le prime chip di gioco. E quindi potevano fingere di stare giocando solo a chip invece che a soldi, ed essere e non essere colpiti dalla repressione. Quindi fondamentalmente l'invenzione della fish non è nient'altro che il mascherare il denaro vero, usare qualcosa di plastica che non ha valore e poi cambiarlo plastica, in successivo. Nell'antica Roma sì, no, certo. Però verosimilmente sì, mascherare sì, il denaro, non mettere sul piatto il denaro vero. Esattamente, esattamente. Detto questo, in realtà nell'antica Roma era vietato giocare d'azzardo, ma le scommesse invece quello, cioè tranquillo, no, capito? Perché se tu giocavi a dadi, no. Ma se scommettevi sulle corse dei cavalli o sui gladiatori, allora quello era socialmente accettabile. Ed effettivamente i fantini che vincevano diventavano delle superstar, perché c'era della gente che vinceva veramente tanti soldi. Si poteva giocare in sesterzi, si poteva in realtà giocare anche col proprio bestiame, addirittura con la propria libertà in qualche caso, però sì, effettivamente si faceva. Quindi quello andava bene, ed effettivamente la gente perdeva anche parecchio, e quindi questa cosa ha creato nel corso del tempo anche dei discreti drammi a livello di ordine pubblico, però insomma tant'è. Botte da orbi per debiti, botte cose, da orbi, teste che partivano. L'avere perso la sua libertà, perché giocandola ai cavalli, tanto quanto adesso, tra l'altro, senza minimamente avere cambiato un centimetro della ludopatia interna. In realtà adesso con questa carrellata di cagate ho finito, però, siccome dei dadi abbiamo parlato sufficientemente, ma noi in tutta questa cosa eravamo partiti dalla carta e dalle carte, esatto. Allora una mini intro sulle carte, poi magari chissà un'altra volta ne parleremo più a lungo, ma diciamo che bisogna aspettare un bel po' per arrivare allo strumento che soppianta a mani basse i dadi nel gioco d'azzardo, cioè le carte da gioco, e questo strumento in realtà nasce nel 900 dopo Cristo, quindi stiamo parlando già un bel po' di tempo dopo, variate centinaia di anni dopo, dove in Cina, anche questo minchia, cioè, è meraviglioso tutta questa cosa, soprattutto perché c'è sempre qualcuno, qualsiasi cosa tu sia bravo anche a scommettere. Certo, veramente, io sono napoletano e mi sento surclassato dai cinesi. Io ho detto Napoli, la mia ignoranza. Sì, infatti il gioco delle tre campane sembrava sofisticato, invece siamo dei pischelli, incredibile. Oh. L'ignoranza avrei detto Napoli. Tu poi non parliamone, però in generale sì. Ed effettivamente nel 900 dopo Cristo arriva in Cina, diciamo in Cina vengono create le carte che avevano tre semi e numeri dal 2 al 9, non so dirvi perché l'1 venisse balzato, quindi erano 24, mentre quelle che conosciamo, diciamo che vengono utilizzate oggi, sono probabilmente arrivate dai mamelucchi egiziani. Da una? Dai mamelucchi egiziani. alla fine del XIV secolo. Ed effettivamente quelle avevano quattro semi simili, nel senso che ci sono i bastoni, adesso non me le ricordo, però ci sono dei semi molto simili, diciamo, alle nostre carte, per un totale effettivamente di 52. Quindi effettivamente queste potrebbero essere le progenitrici di quelle che utilizziamo noi, e vengono utilizzate quasi subito per il gioco d'azzardo, non per il burrachino serale della famiglia Chigos. Quindi vanno a associarsi a quelle che erano le fish di quel tempo, quindi mettiamo il gioco delle carte all'interno del gioco d'azzardo e i dadi. Sì, e in realtà nello specifico pare che il primo gioco che rivoluziona totalmente il gioco d'azzardo è il blackjack. Chiaro. E pare che le prime forme di blackjack venissero da un gioco spagnolo che si chiama 21, cioè 21 evidentemente, quindi esattamente il blackjack. E questo gioco appare in un libro scritto da Cervantes. Beh, no, veramente. Quindi dall'autore di Don Quixote nel 1601 c'è già questo. A un certo punto viene citato questo gioco che si chiama 21, che è evidentemente il blackjack. Che figa. Ma tu pensi? Bellissimo. Che bomba. Incredibile. Così, e niente, invece. I napoletani non rientrano in questo. Stavamo aspettando, eravamo in trepidante attesa. Però posso dire, per riscattare un po' la nostra nazione di cialtroni, il primo casino invece quello ce l'abbiamo noi. Beh, figurati. Ma non a Napoli. Dove? A Venezia. Certo, tutti i ricastri, le maschere, fa le tarantelle. Il primo casino, casino. Il primo casino, fondamentalmente, diciamo, non si chiamava ancora così, ma era un casino, fondamentalmente. Ma Chiara, ma grazie per tutto questo, ma per caso vuoi suggerirci una chanson? Certo che vuoi. Ce l'ho anche quella, ed è una canzone che non ascoltiamo da un po' di tempo, per quanto l'abbiamo ascoltata parecchia, che è Michelle di Dash Nazari. Dai, ma... Giustamente. Apprezzami. Giustamente. Così, sempre per rimanere in tema. Posso affermare che mi deludi, Chiara? Posso dirtelo? Senza offendere. Cos'è che dici? Non sento. Posso affermare che mi stai deludendo? Puoi farlo. Dovrei scriverlo qui nella mia macchina da scrivere invisibile. E allora cerca di farlo veloce, perché mi stai deludendo, te lo assicuro. Dimmi perché ti sto deludendo, cialtrone che non sei altro. Perché Dash Nazari, chi è? Cioè, da te io mi aspettavo un nome di spessore. Ma ascolta, perché tu non sei attento e di solito non ascolti Zona Rossa, che abbiamo smascherato tutti, e non sai che recentemente sta cercando di affiancare alle mie castronerie delle canzoni a tema. È vero, confermo. E nello specifico non sempre le prime che mi vengono in mente, ma magari la seconda o la terza. Va bene. Dash Nazari ha fatto un pezzone che parla per l'appunto di gioco d'azzardo, e quindi mi sembrava dopo. Va bene, allora lo accetto, solo perché a livello intellettuale lasci dietro di te di una spanna almeno sia Gigi che Pico. Beh, su questo non è dubbio. L'hai dovuto scoprire adesso, Norberto. Rivendicati qualcos'altro. No, ma io non l'ho scoperto adesso. Ah, okay. Lo dico chiaramente. Lo dici apertamente, giusto? Esatto. Chiara, qualcosa di ovvio da dire in più di che ha detto lui? Ma sì, non esistono più le mezze stagioni. Infatti. Grazie Norberto. Grazie, Chiara, per il momento dell'ovvio di Zona Rossa. Norberto, dici. Sì, senti, guarda, tra l'altro, ma gliel'hanno già data Nobby la cosa da assistente civico, quindi alla fine nel frattempo è arrivata, o... No, perché non c'è il distintivo e allora non lo vuole più fare. Sì, era tutto contento ieri, ma oggi gli ha detto sta cosa. Scusami, ma lui non era uno di quelli che gli piaceva anche stare in borghese, così? Sì, ma vuole la patacca, anche non da esibire, Ma l'ho ordinata su Amazon, adesso arriva. Ora continueremo a succarcelo noi, e quindi avremo sta arriva, spia in adesso mezzo. Arriva poteva su Amazon. Poteva essere la buona volta che ce ne liberavamo, invece niente. Invece niente. niente, va in giro per Zam con il metro a dire agente di stare esattamente, distante, quello il problema. Mamma mia, è quello il problema. Neanche il comune ti vuole. Dovrebbe arrivare Block Notice per le multe a breve, speriamo, cioè, non so. Speriamo. Siamo fortunati che è povero e non si potrà mai permettere né una penna né una matita, quindi non potrà mai... perché quella comunque il comune non la dà e quindi... Eh no, infatti dovrei spendere dei soldi che non ho, quindi no. Tu puoi andare in fila all'IKEA e rubarla e metterti, esatto, in tasca 40-50 di quelle belle, vedi perché, vedi perché tu sei un capo e noi no, è per questo, è per questo motivo, perché ho trovato la soluzione, perché trovi soluzioni semplici a problemi grandi. Esatto, cioè se vuoi dell'IKEA c'è anche il metro, ma quello di carta non so se funziona. No, ma tranquilla, il metro ce l'ho già, me l'ha fornito Pica. Ha detto che non gli serviva più, non so per far cosa, ha parlato di bambini in cantina, non ho capito bene, però non gli serviva più, ha detto. Ah, ci sta. Chiara, volevo condividere con te un momento bellissimo, un nuovo momento che si è venuto a creare in zona rossa, esattamente come si vengono a creare i funghi in maniera spontanea. Questo nuovo momento. Funghi quelli porcini o quelli dei piedi? No, tipo? Quelli dei piedi, ovviamente. Ah, okay, in questo momento stiamo per rientrare in questa cosa che Stefano ha voluto donare a Zona Rossa, che è la rubrica che nessuno stava aspettando, che è una rubrica composta da delle battute per ogni laboratorio di ZAM. E la battuta di questa sera è questa qua. Siete pronti? Vai. Norberto, sei pronto? Sì, diciamo di sì. Gigi, tutto a posto? Io ci sono, okay. Ormai. Stefano, grazie. L'attività dell'Art Lab che non fa ridere, qual è? Tutte fatte da Fergi. Chiara? L'attività dell'Art Lab che non fa ridere. Ah, oh madonna mia. Roberto? Io ce l'ho in mente forse. È la serigrafia. La madonna, la prima volta qualcuno azzecca. È la serigrafia, perché si è seri quando si fa la serigrafia. Grazie della spiegazione, Pica, non l'avevamo capita. No. Grazie. Era complicata in effetti. Grazie Cesare, rendi la mia quarantena più sopportabile, nel senso che adesso non voglio più uscire di casa. Esatto. Grazie. Insomma, poi nel frattempo è arrivato Dutch, chiede di te, Chiara. Perfetto, allora io vi saluto. Buona serata, ci vediamo presto. Grazie, compagnia di Norberto. Sì, purtroppo. Esatto. La compagnia migliore che si possa avere. Ai noi. Sì. Ciao Chiara. Ciao. Ciao Chiaretta, buona serata. Baci. Entro nel casino, sono agitato ma sembro calmo, mi muovo a passo lento sul pavimento di marmo. Alla cassa non c'è tanta fila, mister, cambiami in fiste 50.000. Entro in una stanzetta dietro a delle tende, ma aspetto un po' prima di sedermi al tavolo verde. Con gli occhi scandaglio il mio obiettivo, perché quando ti giochi tutto ogni dettaglio è decisivo. Intanto osservo gli altri giocatori e ne studio il profilo, come per coglierne le storie e capirne il motivo. C'è un uomo in camicia e cravatta che gioca aggressivo e si aggiusta continuamente il nodo in modo compulsivo. Poco più là una donna che invece si approccia al gioco con fare riflessivo, gioca sul difensivo, passa ancora qualche istante e poi mi decido, siedo al tavolo e faccio il mio tentativo. Quando ero ragazzo c'era un tipo giù da me, girava con me, stava in crew con me, spaccava col rap. Poi ci siamo persi di vista, mi avevano detto che fa il croupier. Ora che getto le mie fiche sto pensando che. Quando ero ragazzo c'era un tipo giù da me, girava con me, stava in crew con me, spaccava col rap. Poi ci siamo persi di vista, che io sappia fa ancora il croupier. Gioco tutte le mie fiche, mi torna in mente e mi finisce. Prendo posto al tavolo del blackjack, sto ripensando a quel diavolo di Michel, a quando eravamo più giovani e spensierati. Solo a quell'età la felicità, se ci pensi, è gratis. Poi le cose cambiano, c'è sempre qualche ragione. Mettici la crisi, la recessione, mettici il tipo che ti deve dei soldi e scappa all'equatore, o le volte che o butti via tutto, finisci in prigione. Mettici che il sistema si fonda sul debito e tu non fai eccezione, e ti ritrovi un giorno che nei 100.000 mila da svoltare rapide. Se non le trovi corri al cimitero e mettici una lapide con il tuo nome. Il croupier prende la prima carta, la gira e mi fa un cenno. Punto tutti 50.000, poi mi faccio il segno della croce. Lui gira anche l'altra, guarda me, poi dice ad alta voce: asso e 10, blackjack. Quando ero ragazzo c'era un tipo giù da me, girava con me, stava in crew con me, spaccava col rap. Poi ci siamo persi di vista, mi avevano detto che fa il croupier. Ora che getto le mie fiche sto pensando che quando ero ragazzo c'era un tipo giù da me, girava con me, stava in crew con me, spaccava col rap. Poi ci siamo persi di vista, che io sappia fa ancora il croupier. Gioco tutte le mie fiche, mi torna in mente Michelle. Esco di casa il giorno dopo facendo alla svelta, controllo l'ora al battere della lancetta. Dall'altra parte della città c'è qualcuno che ha fretta di ricevere quel che porto nella valigetta. Salgo su un taxi e riscendo dopo una mezz'oretta. Raggiungo una panchina in fondo a una stradina stretta. Lui è già lì che mi aspetta, ha una giacchetta che gli arriva alle ginocchia e in bocca una sigaretta. Appena scorge la mia sagoma fischietta, fa un suono simile ad un uccello che cinguetta. Rispondo con un verso uguale, stesso segnale, poi lo abbraccio in una morsa stretta e gli dico: oh grande per ieri sera, che intesa perfetta, questa è la tua fetta, le ho contate raccolte con la graffetta. Se non c'eri tu a quest'ora avevo in bocca una beretta. Meno male che mi hai servito quel blackjack, fra. Quando ero ragazzo c'era un tipo giù da me, girava con me, stava in crew con me, spaccava col rap. Poi ci siamo persi di vista, lui è finito per fare il croupier. Butto tutte le mie fiche, ringrazio che. Quando ero ragazzo c'era un tipo giù da me, girava con me, stava in crew con me, spaccava col rap. Ognuno c'ha il suo destino, il suo è di fare il croupier, il mio è di giocarmi le mie fiche. Poi in caso ci pensa Michelle. Attenzione, l'abbiamo portata a casa. Gigi, Norbi, grazie. Io sono sfinito. Zona Rossa brucia anche l'anima. Abbiamo fame. Abbiamo fame. Brucia ancora però. No, eh? Abbiamo sonno, abbiamo freddo, vogliamo i soldi. Non date, c'è cibo, dovremmo leccare Norberto per nutrirci. Dateci tutto subito. Quindi, che dire, Norbi, stavi dicendo? No, dicevo semplicemente che oggi è stata veramente una puntata intensa, interessante, bello. Notavo come... È bello usare i contatti che ci isolano per creare reti in modo rivoluzionario. Sì. Quindi, vabbè, dovevo dire qualcosa. Grazie Norberto. Grazie Norberto, vi lasciamo con un sacco di musica a rotazione. Ci sentiamo sicuramente domani con un sacco di programmi, tra cui anche un sacco di programmi. Sicuramente. Purtroppo non ci sarà Zona Rossa, che dovrete aspettare mercoledì prossimo. Beh, lo sappiamo. Ci sarà Pica. Però ci sono i podcast di Zona Rossa, solo quelli in realtà. Gli altri sono corrotti, non ascoltateli. E poi comunque le telefonate moleste non saranno limitate a Zona Rossa, ve le faremo anche spot. Sì, esatto, noi spot facciamo tante cose. Vi ricordiamo di riascoltarvi il podcast della scorsa volta per partecipare al fantastico contest che è stato lanciato, alla fantastica scommessa, quell'annuncio importante, la da promessa parte di Lord Berto. Lord Berto, che salutiamo, che ogni tanto lo intravediamo passare davanti alla porta per ricordarci, vi ricordate i numeri? Esatto, lui preferisce stare nella vegetazione, esatto. Tendenzialmente sì. La radio la potete ascoltare dal sito di ZAM, mi raccomando, la chat della radio è radiozam_chat su Telegram. L'ultimo messaggio che è arrivato è: ma merde, siete dei miserabili. Che è vero, tra l'altro. Verissimo, lo rivendichiamo. Però nome e cognome da parte di chi? Compagno Gulli. Il che dà del cornuto all'asino. Però lo rivendichiamo comunque. Norberto, Gigi, grazie. Grazie a voi. Buonanotte. Grazie a voi. Buenas noches. Anche voi, buonanotte. Fatto con passione e impegno fino adesso. Non vedo perché scendere a un compromesso. Ho già sbagliato e sbaglio ancora spesso. Ma quello che so fare è questo e non ho mai smesso. Ognuno vive per 16 bare di gloria. Un modello moderno del guaroliano quarto d'ora. Ma me suona tutto na na na na na. Ma me suona tutto na na na na na. Ognuno vive per 16 bare di gloria. Un modello moderno del guaroliano quarto d'ora. Ma me suona tutto na na na na na. Ma me suona tutto na na na na na. Ascolta, un saluto agli MC qui presenti. Avesto che produce quella ritmica richiesta da noi dissidenti. Il mondo gela ed inverno blocca fontane. Sta tecnologia di merda dove c'è fame, non da pane. Non serve un cazzo spaccare se le rime sono vuote, perché hai niente ma non hai niente da dare. cuore valido se batte scalda, cerca di ascoltarmi. Parole entrate dal microfono sanno sbrinarmi. Non alzerò mai le mani, offrendo resa. Ti auguro il meglio, avanti prendi questa torcia accesa. Troverò il modo di evadere fisicamente. Come la metti, come lo accetti, che chi soffre vede cambiare niente. Il rap italiano è più vuoto che pieno. L'essere colto è una fortuna, ma non implica che non sei scemo. Sono un sognatore radicale, per questo immagino un futuro dove il bene batte il male.